Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri cento. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi, da me tornerai. 14 febbraio, San Valentino. Con questa splendida canzone di Fabrizio De André celebriamo questa dolce ricorrenza. A chi si ama, a chi si sceglie giorno per giorno, a chi si regala comprensione, serenità, a chi costruisce complicità, a chi dona un sorriso, a chi colma un vuoto, a chi asciuga una lacrima, risana una sofferenza, costruisce un'identità, a chi abbandona la propria unicità per crearne un doppio, a chi non taglia i rami ma li fortifica, a chi perde il solitario capo del filo per crearne un folto groviglio. A voi tanti auguri da Voice Anatomy. Fra un anno scordate le avrai, amore che vieni, da me fuggirai. Fra un mese, fra... Signori, benvenuti a un nuovo appuntamento di Voice Anatomy, questo viaggio nei meandri della voce in tutte le sue declinazioni. Siamo in diretta da Radio 24, da Roma. Sono le 14:33 minuti e 19 secondi, insieme a voi per cominciare insieme. Pronte le valigie, come già dice il nostro amico Enrico Sarnelli da Bosco Reale, sono pronte le valigie. E vicino a me già mi ha raggiunto un grandissimo professionista, lo sapete, l'inizio è abbinato a delle voci storiche del doppiaggio, ma anche come attori ovviamente, e lui è costui, vado a leggervi un po' di bio, ma pochissima, perché poi lo scopriremo strada facendo. È nato a Roma il 27 maggio, possiamo dire anche la data, è un uomo del 69, è un attore, doppiatore, direttore di doppiaggio italiano, è una delle voci più importanti di attori belli, anche lui devo dire, insomma, no, mantiene. E avete sentito? Già, invece dice buongiorno. E questa è grande ironia. Vabbè, ti presento subito Massimiliano Manfredi. Bene. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao Pino. Ciao. Siamo contenti. Sono bello. Ma ti è in radio. Ah, è vero. Massimiliano, è vero. Scusa, hai ragione. È radio. È una voce affascinante per radio. Uno costruisce il corpo intorno. Facciamoli immaginare. Esatto, anche perché tu, insomma, c'hai dei corpi a cui sei abbinato. Niente male, sì. Che vanno da Orlando Bloom, che insomma un sex symbol, niente male, anche molto bravo, come Edward Norton, e non solo, tantissimo, a parte Harry Osborne, James Franco nel ruolo di Harry Osborne nei tre Spider-Man, dove io facevo solo il cattivo lì. È vero. Ho ammazzato che dozio di Spider-Man, lo ha ucciso 3-4 volte. 700 volte. Almeno, muore sempre. Vi ricordo i numeri, anche se li sapete ovviamente. Il nostro numero verde per partecipare in diretta è 800 24 00 24, per gli sms e anche WhatsApp se volete, 349 238 6666, e ovviamente vi ripeto, sapete, i nostri Voice Anatomy come social, siamo ovunque, Facebook eccetera eccetera. Bene, ma cominciamo questo percorso. Tu quando hai cominciato, Massimiliano? Tutti i bambini, quelli della tua generazione, anche idem, se sei giovane. Idem, nel senso che io ho iniziato, avevo 5 anni. Adesso ne ho 46, come sì, carinamente non hai detto. Esatto, ma dai, si può dire. Carinamente non hai detto, e quindi sono la bellezza di 40 anni. Tu sei in pensione praticamente. Ancora no, purtroppo. 40 anni. Non entriamo nell'aspetto finanziario, no, della situazione, meglio di no. Già dall'Empals è diventato IMSS, esatto. Per cui... ma questa è un'altra trasmissione, Radio 24 si occupa anche di questo. Esatto. Ma non oggi, oggi siamo più affascinanti. Esatto. A 5 anni chi è venuto? C'è qualcuno, guarda, in famiglia? No, allora sì, nel senso che mio fratello più grande, Rory, già aveva iniziato a farlo, poi lui dopo col passare del tempo ha smesso, e accompagnando lui, mia madre, stavo insomma insieme a loro, e improvvisamente quel giorno serviva un bambino in più, col grande Renato Izzo. Ah beh, indimenticato, certo. E Renato venne fuori e disse a mia madre: perché non mi fa provare Massimiliano per fare una cosa? Mia madre: no, lui è timidissimo, non entrerà mai in sala. No, no. Poi sono entrato. Non ne sei più uscito. Non ne sono più uscito, è stata una tragedia. No, una anche fortuna. Perché Massimiliano è alto quasi 2 metri. Non sei, quanto sì. Sei alto, Massimiliano? 1,91. Che non è facile, come per uno piccolino alleggio, dovete sapere, nella sala di doppiaggio, per chi non la conosce, c'è uno schermo di fronte, che sia televisivo grande o uno schermo cinematografico, c'è un leggio con sopra il copione, che tu scopri in quel momento cosa devi fare, un microfono e poi la cuffia per seguirlo in originale. Per cui quel leggio, se sei più piccolo del leggio e capita, c'hai dei panchetti sotto che ti sostengono per arrivare al microfono. Oppure la botola per quelli alti come me. Non ci avevo mai pensato alla botola. Uno alto come te sei la gioia dei fonici. Sì, esatto. A proposito di questo, saluto dall'altra parte del vetro il nostro tecnico Valerio, che è qui, lo sapete, perché la Roma ha già giocato. So che sì. usciamo dal seminato di questa trasmissione, ma è giusto, lui è così, insomma, lui domina in questa maniera i suoi turni di lavoro. La capoprogetto Alessia Navarro, con l'autore Damiano. Grazie Fabiani, grazie a Gaia, sempre puntuale, redazione e quant'altro, pronta ad accumulare le vostre chiamate e i vostri sms. Io mi ero dimenticato una cosa bellissima di Manfredi, quante cose ha fatto, ma ce n'è una meravigliosa che io spero che riusciamo a scaricare da internet, quel monologo fantastico di Edward Norton nella 25esima ora. Che è arrivato. È arrivato. Sì, io direi. Io partirei a freddo così. Una cosa così al volo. Guardate, questo film di Spike Lee è straordinario. Credo di molti voi l'abbiano visto. Se non l'avete visto, è un consiglio che vi do. È un bellissimo film, ma c'è questo momento in cui Edward Norton, almeno il personaggio che interpreta Edward Norton, sono le ultime ore di libertà prima di entrare in prigione. Esatto. E lui di fronte allo specchio si guarda. E praticamente c'è, tra virgolette, uno sdoppiamento della personalità, chiamiamolo. È forte, è violento, ovviamente sono cose che dicono nel film, non è Massimiliano Manfredi. Per chi si mette in ascolto tipo Orson Welles, La guerra dei mondi, che tutti scappavano perché pensavano che fosse veramente l'invasione extraterrestre, può sembrare un'invettiva contro i neri, i bianchi, i gialli, invece... No, è solo... uno sfogo, uno sfogo che io lui se ha. Te la senti te lo farei fare, sì. Anche perché parliamo di voce qui, per sì, cui... come no, io l'unica cosa che dico è, siccome era molto, io ci ho messo un giorno a farlo quel monologo. Beh, certo. Non vorrei, io mi piacerebbe farlo tutto, però insomma tu a un certo punto poi mi interrompi. Però è bello il finale, sì. È lungo, sì. Sono 3 pagine. Eh sì, qui se vengo pagato a righe... No, qui sei un amico, t'hanno detto, no? È in amicizia totale. Anche perché va bene. Allora, ci abbiamo il tempo, vero? Prima che finisce il primo blocco insieme a Massimiliano. Vuoi una musica? Che sì. Dai. Sì. Senti, sei pagato. Sentiamo? Anche per questo. Sentiamo un po'. Beh, mazza, perfetta. Un po' più aggressive, però va bene. Così l'ingresso. Sì, perché è aggressivo quello che sì. Tu dici. Perché lui inizia. Immaginatevi che lui sta di fronte allo specchio e comincia a parlare con se stesso. E quindi in questo sfogo lui comincia a fare. In culo ai mendicanti che mi chiedono soldi e che mi arrivano alle spalle. In culo ai lavavetri che mi sporcano il vetro pulito della macchina. In culo ai sindi e ai pakistani che vanno per le strade a palla con i loro taxi decrepiti, puzzano di carri da tutti i pori, mi mandano in paranoia le narici. Aspiranti terroristi, e rallentate, cazzo! In culo ai ragazzi di Chelsea con il torace depilato e i bicipiti pompati che se lo succhiano a vicenda nei miei parchi e poi te lo sbattono in faccia sui gay channel. In culo ai bottegai coreani, con le loro piramidi di frutta troppo cara, con i loro fiori avvolti nella plastica. Sono qui da 10 anni e non sanno ancora mettere 2 parole insieme. In culo ai russi di Brighton Beach, mafiosi e violenti, seduti nei bar a sorseggiare il loro tè con una zolletta di zucchero tra i denti, rubano, imbrogliano e cospirano. Ma tornatevene da dove cazzo siete venuti! In culo agli ebrei ortodossi, che vanno su e giù per la 47esima con i loro soprabiti imbiancati di forfora a vendere diamanti del Sudafrica dell'apartheid. In culo agli agenti di borsa di Wall Street, che pensano di essere i padroni dell'universo. Quei figli di puttana si sentono come Michael Douglas e pensano a nuovi modi per derubare la povera gente che lavora. Ma sbattete dentro quegli stronzi a marcire per tutta la vita! Bush e Cheney non sapevano niente di tutto quel casino. Ma fatemi il cazzo di piacere. In culo ai portoricani, inventi in una macchina e fanno crescere le spese dell'assistenza sociale. E non fatemi parlare di quei pipponi dei domenicani. A loro confronti i portoricani sono proprio dei fenomeni. In culo agli italiani di Boston, con i loro capelli impompati, le loro tute di nylon, le loro medagliette di Sant'Antonio, che agitano la loro mazza da baseball firmata sperando in un'audizione. In culo alle signore dell'Upper Inside, con i loro foulard e i loro carciofi di balducci da $50, con le loro facce pompate di silicone, truccate, laccate e liftate. Non riuscite a ingannare nessuno, vecchie befane. In culo ai negri di Harlem. Non passano mai la palla, non vogliono giocare in difesa. Fanno 5 passi per arrivare sotto canestro, poi si girano e danno la colpa al razzismo dei bianchi. La schiavitù è finita 137 anni fa e muovete le chiappe, è ora! In culo ai poliziotti corrotti che impalano i poveri cristi e li crivellano con 41 proiettili nascosti dietro il loro muro di omertà. Avete tradito la nostra fiducia. In culo ai preti che mettono le mani nei pantaloni di bambini innocenti. In culo alla Chiesa che li protegge non liberandoci dal male. E dato che ci siamo, ci metto anche Gesù Cristo. Se l'è cavata con poco. Un giorno sulla croce, un weekend all'inferno. E poi gli alleluia degli angeli per il resto dell'eternità. Provi a passare 7 anni nel carcere di Otisfield. In culo a Osama Bin Laden, ad Al-Qaeda e a quei cavernicoli retrogradi dei fondamentalisti di tutto il mondo. In nome degli innocenti assassinati vi auguro di passare il resto dell'eternità con le vostre 72 puttane ad arrostire a fuoco lento all'inferno. Stronzi cammellieri con l'asciugamano in testa, baciatemi le mie nobili palle irlandesi. In culo al mio migliore amico che mi giudica con gli occhi incollati sulle chiappe della mia ragazza. In culo la mia ex donna, le ho dato la mia fiducia e mi ha pugnalato alla schiena, mi ha venduta alla polizia, maledetta puttana. In culo a mio padre, con il suo insanabile dolore, che beve acqua minerale dietro al bancone del suo bar vendendo whisky ai pompieri, inneggiando ai Bronx Bombers. In culo a questa città e a chi ci abita, dalle casette a schiera agli attici di Park Avenue, dalle case popolari del Bronx alle case di pietra. Che un terremoto la faccia crollare, che gli incendi la distruggano, che bruci fino a diventare cenere e che le acque si sollevino e sommergano questa fogna infestata dai topi. No, in culo a te. Avevi tutto e l'hai buttato via, brutta testa di cazzo. Duro. Duro, ovviamente, bello, bellissimo. Beh, insomma, lunghetto, è un'inventiva, bello, no, è difficile, bello. No, tu non ti sei neanche mai impicciato. No. Ovviamente quello che avete sentito è tratto da questo film straordinario, La 25esima ora, che sembra un po' sottolineare anche il momento di confusione sociopolitica che attraversa tutto il mondo. Non è una presa di posizione, è veramente una cosa pazzesca. Sì. Dal punto di vista recitativo, ci credo. Beh, che è stato sia un messo una giornata vera. Sì, sì. Un giorno intero, dalla mattina alla sera. Anche perché non c'è solo il modo di recitarlo, perché adesso tu l'hai fatto bene, ovviamente, ma tu lo devi fare sulla faccia di un altro. Che è una cosa un po' più difficile. Con i tempi suoi, con i suoi labiali e quant'altro. Anche perché... Che poi è la cosa più complicata per il nostro lavoro, insomma. Senti, prima stiamo per andare in pubblicità, se non sbaglio, tanto dura pochissimo, però... Andiamo a una cosa più tranquilla, andiamo su Zoolander, dove tu sei Owen Wilson, no? Sì. Lo fai sempre, sì, Owen quasi Wilson. Sempre, diciamo quasi il sempre. Il biondo che una volta è venuto anche a Roma, l'ho portato allo stadio a vedere la Lazio, non è più tornato. Io credo, porti a vedere la Lazio. Ecco, vedi, e scendiamo subito a terra. Il culo, vabbè. Vai con Zoolander e ci vedete. Sentiamo fra pochissimo, ovviamente. Ciao. Benvenuti Shean Seth. Potete restare nascosti quanto volete. Io raduno le truppe. Ehi, come andiamo? Questi sono Derek e Matilda. Derek, già conosci Natani e Chloe? Ciao. Ciao. Qui c'è Buzzy Sullivan, il famoso surfista di Maverick. Ciao, fra. Ah, e questa è una fantastica band, i Little Kings. Li ho conosciuti facendo vela su ghiaccio in Finlandia. Lui è il mio Sherpa, l'Apsang, quindi... Per favore, un attimo di attenzione. Derek e Matilda hanno un guaio. A lui hanno lavato il cervello per far fuori il primo ministro della Micronesia e... Malesia. È uguale. Quindi, si nasconderanno da noi per un po'. Come li accogliamo? Benvenutevi. Molto bene, venite. Voice Anatomy. Come promesso, siamo tornati. Sempre il bravissimo Massimiliano Manfredi. No, lei è bravo, dai, l'ho detto io. È giusto, anche perché ecco, gli sms che arrivano mi confortano, mi tranquillizzano. Sì. Nessuno si è inalberato entrando a metà del monologo. Che state dicendo? Oddio, che perché questa rabbia omofoba o razzista nei confronti del mondo? Invece no, urlano tutti, splendido monologo, recuperiamo il film. addirittura uno si è intonato a te e ha detto scusa, no, aspetta, com'è? Ah, film favoloso in culo a chi non va al cinema. Esatto. Tanto per rimanere in tema sì. del monologo, complimenti eccetera, vabbè, complimenti si leggono di meno, sapete che io poi quando mi fanno su di me amo raccontare il contrario, qualcuno che invece Certo. va dall'altra parte. Abbiamo salutato Owen Wilson in Zoolander alla fine del primo blocco, adesso uscirà Zoolander 2 dove sì, poi siamo insieme pure lì. Sì. Io sono coppia fantastica e non è la prima volta che siamo insieme, no, è vero. Vogliamo ricordare anni fa. Questo quella... Mugatu e tuo Zoolander è Ben Stiller che è Vittorio Guerrieri, tuo sì. Owen Wilson, come si chiama nel film Owen Wilson? Ansel. Ah, Ansel va un casino Ansel, quest'anno, sì. È vero. Perché metti un po' su tutto, metti. Sì. Che bella l'espressione, ma fantastico. Primo film che non ebbe grandissimo successo, poi divenne un cult o sì. un cult che dir si voglia. Ma anzi, addirittura se ti ricordi era considerato un B-movie il sì, primissimo sì, film, poi sì. è esploso totalmente in DVD. No, perché ha preso in giro del mondo effimero della moda, sì. pazzesco in questo film, poi hanno accettato di stare anche Valentino, tutti i figli, tutti i più grandi che seguono. Beh, anche nel primo ti ricordi c'era David Bowie. Sì, c'era... c'erano due cose, il piccoletto Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, sì, un sacco sì, di sì. genere. Beh, hanno dato veridicità al film. Invece noi abbiamo avuto un'altra bellissima avventura durata quanti anni? Sei tanto, anni? Tanto. Sette, otto sette anni. Anni. Sette anni. Nella meravigliosa trilogia del Signore degli Anelli. Fantastica. Eravamo insieme in sempre al Legio. Che sì. già quella è merce rara, perché stare sì. insieme al Legio è merce rara. Infatti hanno imparato anche i nostri radioascoltatori che c'è una colonna separata quando doppio esatto. film per poi missare insieme le voci, per uno, perché se si accavallano è difficile. Invece lì hanno messo la Compagnia dell'Anello insieme, grande errore. Sì. Perché cinque amici che fanno casino come a scuola. Esatto. A un certo punto il direttore ha detto allora basta fuori sì. cazzo via, e lui faceva Gollum sì. è venuto anche qui. Ma la ricordi quella frase meravigliosa del le colonne, gli orchi? Ah, sì, ma è bellissimo, potete sapere, adesso la racconterà lui. Nel doppiaggio come c'è cioè, una dizione che deve essere perfetta, insomma, anche se certe parole fanno un po' paura, come ribrezzo, esatto. parabrezza, svelto, zingaro, sì. ah, va bene zucchero, ma insomma posto e disposto, ma certe cose fanno veramente paura. A un certo punto a Massimiliano gli capita una frase, lui era Legolas sì. ovviamente, che c'ha un nome della medicina pure questo. Eh sì, poi dopo lo parliamo del prontuario farmacologico, esatto. dei nomi del Signore degli Anelli, che anche lì ci avevamo. Guardi i tolkieniani, mo prima no, non va arrabbiate, i su, ben pensanti che ci uccidono e i tolkieniani che ci fanno fuori. Non va arrabbiate, un modo per giocare, ma noi sì, abbiamo sì. amato e amiamo tuttora. Ma lo sanno, gli abbiamo regalato l'anima a quel niente, film. Niente, praticamente c'era Legolas che cercava di avvertire Aragorn su una cosa e io c'era questa frase di diceva Aragorn, attento, ci sono, io la dicevo normalmente, ci sono gli orchi dietro le colonne, svelto, come noi siamo abituati a dire. Purtroppo invece la dizione giusta è Aragorn, attento, ci sono gli orchi dietro le colonne, svelto. E per dirla non sono riuscito, sono stati 82 anni. Ma perché ridevamo? Perché ci sono gli orchi, le colonne, presto, vai! Non se ne usciva, proprio lui biondo, costarco e le frecce. Uno, due, tre. Attento, dietro di te. Sì. Oddio, grazie. Sì. E lì ovviamente sarebbe, vabbè, un modo anche per ironizzare e divertirsi un po', perché lì stavi 9 ore al giorno, sì. stando non concentrato di più, perché avevamo realmente... c'era un'attenzione... Sì, enorme, veramente il gruppo dei tolkieniani, questi grandi seguaci, studiosi di Tolkien, molto attenti a tutto, anche alla pronuncia dell'elfico, sì, sì, sì, che sì, uno sì, già sì. non parla inglese, esatto. pensa l'elfico. Facevo difficoltà a parlare in italiano, esatto. in elfico. In elfico era duro, e ci dicevano anche le pronunce da seguire. Beh, noi sì. giustamente dobbiamo sì, seguire sì, sì, qualche cosa. Sì. Però è vero, noi ci è venuto in mente, cioè, stando insieme quando si lavora, soprattutto su situazioni così importanti, la goliardia esce fuori. E infatti, con sempre Massimiliano esce fuori questo prontuario medico. Eh no? sì, ti ricordi Neo Boromir, da oggi lo trovi in farmacia. esatto. C'era un personaggio, si chiama Boromir, oppure Legolas, era una medicina. Legolas per regolare attacchi... no, ma anzi per regolare certi esatto. i cicli, mal di testa, Aragorn. Esatto. 10 gocce di Aragorn. E il sì. sorriso tornerà. Sì. No, normalmente senti costipato lo stomaco, Gandalf. Esatto. Erano tutti nomi che noi abbiamo un po', diciamo, rimodellato come un prontuario farmacologico. Amando fortemente il film, sì, ovviamente. Ma comunque, sì, anche gli esperti tolkieniani che stavano poi in sala con noi ridevano, cioè, di queste cose. Beh, si divertivano miseria. Anche loro. Se non era così. Ci abbiamo un momento del Signore degli Anelli, visto che l'abbiamo nominato adesso. Non so in che momento Legolas, l'elfo, sta tirando frecce. Sentiamo. Non lo so. Sentiamo che cosa avete preso. Conto finale 42. 42? Oh, non è niente male per un principino elfico dalle orecchie a punta. Io sono seduto comodo sul 43. 43. Questo era già morto. Si contorceva. Si contorceva perché lui ha la mia ascia conficcata nel suo sistema nervoso. Beh, soprattutto Renato Mori abbiamo sentito. Beh, sì, qui, grande, grande. Mi ha fatto anche piacere. Grande, no? Renato. Che salutiamo, ovunque starà doppiando i film più belli, perché è una persona fantastica. E ti hai sentito il rumore della freccia, tu che contavi i cadaveri? 42, 43. 40, con la voce 40, di testa. Eh sì, era un po'... 42, era un po'... che era... poi c'è stato un momento... O detto, era un po' appicciato, era un po'... Pure era 42. Così. Sì, era... È così, vabbè, ma lui è biondo. Comunque, eh sì, è vero. E poi c'è stato un momento in cui veramente Massimiliano ha doppiato qualsiasi tipo di persona in difficoltà. C'è stato un anno in particolare dove hai fatto quel film bellissimo del regista di... come si chiama quello? Dammi 127, 127 ore. 127 ore. Regista, sì, pure famoso, io. Anche ha vinto l'Oscar, il milionario. Sì, sì, The Millionaire. Pensa un po' come stiamo, ragazzi. Qui ci aiutano comunque. Ma adesso telefonate voi, sms, vai. Non me chi lo fate, è il regista del... non me lo fate dire. È una pecca enorme, che sì, è molto famosa. Eh sì, enorme. Va bene, lì hai fatto quello impicciato fra le rocce, era James Franco. Sì. Danny Boyle mi è venuto in mente. No, zitto, mi è venuto in mente. È vero, mi è venuto in mente, è vero, dai, è vero. Dai forza al tecnico del suono, ti prego. No, perché io vedo dei cartelloni qui con scritto. No, c'era scritto un'altra cosa. Quando scusa, andiamo in pubblicità, non Danny Boyle. Ok, scusa. Prego, ci mancherebbe altro. Per cui lì sei stato 127 ore anche da solo a vivere, a bestemmiare, a lottare, tutto è successo. A tagliarsi addirittura per uscire da quel... Da esatto. Quella... Un altro film terrificante, ma bellissimo, è riguarda un attore, quello tutto chiuso dentro la bara. Eh sì. Che si intitola Buried. Buried, sì. E lui stava lì, e la cosa pazzesca di quel film è stata che praticamente, siccome lui stava chiuso appunto dentro questa bara, voi sapete che normalmente, tecnicamente, riusciamo anche ad avere dei piccoli stratagemmi quando dobbiamo doppiare delle scene molto lunghe con i fiati e così. E invece purtroppo lì, essendo comunque sia tutto di seguito la scena, ed essendo sempre un crescendo, sia nelle battute, che erano poche a dire il vero, ma erano molti fiati di terrore. Se dovete vederlo, vedetelo, guardatelo con la finestra aperta, con la luce nella stanza. Sì, perché io a farlo mi mancava l'aria. No, pazzesco. È pazzesco. Un'ora e mezza dentro una bar. Sì, sì. In mezzo al deserto, un soldato che aspettava che qualcuno venisse a liberarlo. Esatto. Con un telefonino. Solo con un telefonino, sì. Esatto. Ma interessantissimo, anche il backstage era l'operazione più interessante del sì, film. L'operazione, se ci pensi, è pazzesca, è sì, geniale. Che voce utilizzi, anche lì c'è uno studio importante perché l'ossigeno manca. Certo, era proprio quello che dicevo, nel senso sì, che infatti. Lì poi quando fai quelle sequenze molto lunghe non puoi interromperti perché... come facciamo noi a volte andando in carenza d'ossigeno, i nostri grandi tecnici ci aiutano. Lì invece era un po' più complesso perché, essendo tutto un fiato, doveva essere un fiato in crescendo, anzi in morendo. Senza dire come non, finisce, esatto, non lo diciamo. No, e quindi dovevamo per forza farlo tutto di seguito. E c'era un altro film sempre massacrante quell'anno, non mi ricordo. Comunque questi due ti rappresentavano il lungo e il largo. Sì. No, è pazzesco davvero, Massimiliano. Poi ci sono tantissime cose, sono i messaggi che arrivano. Questo è molto divertente, questo ne parliamo fatelo dopo. Fatelo uscire. No, siete due ragazzini, è bello ridere con voi. Oh, ma oggi siete veramente, vero, state con me. Oggi sono sotto braccio con me, è quasi vero, tutti. È vero. Sentire due amici che ridono insieme, sempre questi messaggi. Bellissimo, da Amamet addirittura Michael ci scrive, o Michelle, non lo so. Noi prendiamolo per buono. Com'è che Saetta McQueen e Chick Hicks parlano tra loro in maniera così cordiale? È vero, abbiamo fatto cazzo insieme. È vero, tu eri, è vero. Sei io sono pura velocità. Ciao. Poi la guerra, allora. L'antipatico contrastante a Settam e Queen, però ci sono fatti anche quelli, guarda, sono attentissimi. Ne sanno più loro di noi, sicuramente. Sì, sì, Massimiliano ha una voce corposa e lirica, vedi? Questo è un complimento bello. Bello, perché, bello, grazie. Pino e Max, ma quante ne avete fatte insieme? Tutte meno quelle che puoi immaginare, insomma. Un bacione. Questa è Alda di Robbiate, vabbè, insomma... c'è un'altra cosa sul Milan, non c'entra niente, insomma. Sul Milan, Massimiliano, sei fantastico, grazie. A chi è invidioso delle capacità altrui e corrompe i potenti per fare carriera, queste aggiungono in culo a eccetera. Okay. Mi fa il segno che dobbiamo andare, allora per chiudere questo altro blocco insieme, un Departed dannata anche lì, chi eri in Departed? Matt Damon, è vero, scusami. Grande Matt Damon, lì ero Mark Wahlberg, sì. Anche lì stavamo insieme, è sempre. Oh, ne abbiamo fatti tanti insieme, dobbiamo fare un figlio, sì. Va bene. Ascoltiamo questo Departed, poca pubblicità, e torniamo insieme a Massimiliano e Voice Anatomy. È appena cominciata. Ci sono cose del mio lavoro di cui non ti posso parlare. Tu sei pericoloso. Non immagini quanto. Sarà meglio che ti organizzi e alla svelta. Se non sbaglio, l'ultima volta ti ho dato la dritta e non sei in galera. Ho la sensazione che ci sia un poliziotto tra i miei uomini. Io ti trovo la talpa, solo che devo fare a modo mio. Se non la trovi, non sarò certo io a rimetterci. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Voice Anatomy. Eccoci puntuali, 15:00 e 35 secondi, Voice Anatomy, vicino a me il simpatico, non dico più bravo, se no si arrabbia, Massimiliano Manfredi. Devo dire che hai l'appoggio proprio all'unanimità dei nostri radioascoltatori, magari quella... qualcuno sarà contrario, ma non l'ha scritto, ma non devo dire che quelli che sono contrari picchiano duro, eh? Sì, sì, c'è sintonia pazzesca fra voi, vabbè, siamo amici, grazie. Ci vogliamo bene, ci stimiamo. Questo è un messaggio un po' più lungo. Buongiorno, continuo ad avere i miei dubbi sul doppiaggio, ma ho scoperto che nella vostra trasmissione c'è di più. Sì, è vero, lo sapete che comincia il percorso della trasmissione con un doppiatore, un attore, poi si va magari all'interno del mondo della voce con un musicista, con un cantante, e poi magari con un tecnico della voce che può essere un etnomusicologo, un filosofo della voce, eccetera, eccetera. Anche un ipnotista, no, tutto ciò che... Ma poi tutto riguarda la voce, eh sì, cioè, la vita, il grande elemento di comunicazione è la voce. C'è di più, vorrei solo avere le fonti di certe musiche e o uso dei voci come le voci di aborigeni neozelandesi. L'altra settimana, della settimana scorsa, è possibile? Questo non lo so, guarda, c'è comunque il podcast di ogni puntata e credo che noi abbiamo citato le fonti, ma sono... anche dei file privati, nel senso che sono portati qui dai professionisti, dai professori, da persone che hanno studiato sul campo e magari sono in forma privata, non sono disponibili in internet. E per cui non lo so, posso chiedere, e nel frattempo voi potete scaricarvi i podcast dove vi raccontiamo vita e morte e miracoli degli ospiti che vengono e delle fonti che utilizziamo. È un film terrificante, poi doppiato a metà, Il figlio di Saul, grazie. Ecco, non lo so, non l'ho visto. Neanch'io. No. So che è un film candidato all'Oscar, che si parla anche della vittoria di questo film. Non so perché dici doppiato a metà, forse perché c'è una parte originale, perché magari si parla una lingua e l'altra per convenzione in italiano, perché la lingua... bisogna come capire. Come al solito è sempre complesso lì, quando abbiamo i film che, insomma, ci sono tante cose in lingua originale, poi è complesso andare a... Ma sono, è una traduzione, il doppiaggio è sì. Una traduzione, sì. Che può essere fatta bene o male, ma esatto. È una traduzione, come un buon libro se non sei la lingua originale, sì. Ma lo diciamo fino allo sfinimento. Qual è il film che ha trovato più difficoltà, Massimiliano, a doppiare? A parte tutti sono difficili, perché quelli che abbiamo detto prima pure... Ma non guarda, sicuramente uno di quelli più difficili è stato proprio con Owen Wilson e Midnight in Paris, perché... Ah, quello di Woody Allen. Woody Allen. Eh sì, perché è un modo di recitare completamente diverso. Ho avuto anch'io la fortuna di condividere un film Woody Allen, un'altra cosa. Ed è pazzesco, perché anche tecnicamente è molto difficile da fare. Perché sono dei prodigi come protagonista, sì, che è lui. Esattamente, quindi quando tu parli fai, io adesso devo fare questa cosa e allora aspettate, no. E tu praticamente non hai la possibilità di imparare praticamente le battute a memoria e seguire sul visivo quello che fanno loro nei movimenti, nelle parole, sì, tutto, quindi... quelle indecisioni. Ma infatti non è a caso che Woody Allen ama di più il doppiaggio italiano, che è sì. Quello che ha tradotto in maniera migliore le insicurezze che lui racconta. Esattamente. Quelle... No. Non è quelle interruzioni che noi gli abbiamo... Ed è difficile perché è complesso, perché oltre alla parte interpretativa c'è la parte tecnica che è molto difficile. Invece quindi... quelli... tu sei anche un supereroe della Marvel, chi sei? Sì, io sono Thor. Oddio, oh, il biondo Thor, come sì. Datteggi con quel sì. Corpo, eh? Il biondo Thor, i vostri avi la mi chiamavano... Ricomincio, rifarla? Rifacciamo. Manfredi, Thor, figlio di Odino. I vostri avi la chiamavano magia. Voi la chiamate scienza. Io provengo da un luogo dove sono entrambe le cose. Tiè, beccate questa. Diala a una donna al buio sta cosa. Poi accenda la luce e ci trova noi. Esatto. La bellezza della voce evocativa, esatto, è questa, che fino a che stiamo in voce puoi anche mimare bene e bleffare bene. Ma poi esiste sta luce e il tatto. È come è stato l'anno scorso, che all'anteprima di Avengers, praticamente c'eravamo noi doppiatori, insomma, certo, come Avengers. Come Avengers. Ci hanno montato sul palcoscenico. Purtroppo non c'avete gli originali, c'avete da noi, chiudete gli occhi, immaginate la voce. Senti, accontentatevi. Pure lui biondissimo, l'hai fatto anche in Rush lui? Sì, il Rush. Bello Rush, molto bello, affascinante. Sempre, l'ho fatto anche qui adesso nella storia di Moby Dick, questo. Ah sì, quello di Ron Howard. Esatto. No, diciamo che non lui... è male. E poi sta crescendo. Devo dire la verità che sta crescendo. È come l'altro attore bello di Magic Mike, quello fighetto. Adesso non so il nome, ce lo dirà sicuramente. Adesso ce lo dicono loro subito. Il protagonista. Eccolo, ne ha fatti 2000 anche sotto assedio. Ne ha fatti tanti da eroe. Quelli che ha preso il posto un po' di Bruce Willis con la canottierina, eccetera, eccetera. Quelli che c'hanno solo la canottiera per l'inizio e la fine. Channing Tatum mi è venuto in mente anche adesso, grazie, no, devo dire che la redazione è molto pronta in questo. Io mi ricordo che del primo Thor, all'anteprima, stavamo al cinema, a un certo punto si vede lui che stava senza maglietta e si è sentito dal pubblico, e c'è, sta così, esatto. Questi non si capisce, gli attori americani, se ci fai caso, diventano pazzeschi in un film, poi vedi una fotografia, 15 giorni finito il film, c'hanno una panza che finisce, c'hanno la possibilità di cambiare organi. Non è un po' come da noi che sei comico, sei comico, basta, sei drammatico, esatto. Sei drammatico quando sei comico. Lì sono attori, esatto. Quindi tutto. Ma gli danno tempo. Dice, guarda che fra 2 anni devi girare l'Uomo Ragno, perché Tobey Maguire, ma adesso dimmi quello che te pare, tutto può essere meno col fisico, quel ragazzino. Sì. No, ma è così. Eppure quando si spoglia nel film c'è il fisico. Noi ci dicono, guarda che domani giri 15 minuti. Esatto, alle 6 esatto. Veniamo a prendere, beh, gira. Ma io devo diventare non fa in tempo. No. Beh, ma è un po' in doppiaggio, per è carità. In doppiaggio anche peggio perché noi e... alle 9, dalle 9 e mezzo giorno facciamo uno psicopatico, poi dall'1 e mezza alle 4 e mezza magari facciamo un figlio. Papà. Sì, e dalle 4 e mezza alle 7 e mezza magari facciamo un'anima. Sì. Quindi... A proposito di anime, tu, a parte le anime, c'era un appunto che io non sapevo, tu sei dentro Holly e Benji anche. Quando ero piccolo, sì, il mitico Bruce. Tu eri Bruce di Holly e Benji. Sì. Com'era la voce di te? Lei ancora? No, ti posso raccontare un aneddoto carino di Holly e Benji, che praticamente io l'avevo fatto che avevo 10-12 anni, quindi in linea col personaggio, diciamo, anche come età. Poi dopo 12-13 anni è tornata la serie nuova, i disegni sono rimasti gli stessi, le voci erano leggermente cambiate e Mediaset è come Masha e Urso adesso che c'ha 17 anni, esatto. Luca te sei e Mediaset volle le stesse voci, e allora noi andammo lì al leggio, e la cosa imbarazzante è che siamo passati passa la palla Holly passa la palla, era una cosa imbarazzante per noi, però soprattutto che c'era tuo figlio presente. Esatto, sì. È così. Dio mio. Uno dei sogni della mia vita sarebbe stato anche il doppiaggio, come ogni attività che riguarda l'uso della voce. Come si inizia? Qual è la strada giusta, oltre ad avere già una famiglia di doppiatori? Un grosso bacio al fantastico Pino e a Massimiliano, Chiara da Mestre. Allora, sì, ovviamente l'abbiamo già detto, se c'è qualcuno della famiglia già avviato all'interno, è come se c'è papà a notaio, un po' cioè in tutti la strada, i lavori, diciamo. Un po' tutti i lavori, è una scorciatoia, fra virgolette, perché poi devi essere preparato, ma se respiri quell'aria. La strada è quella sicuramente di una scuola di recitazione, se non l'ha ancora fatta, di diventare un attore o un'attrice completo, con la dizione perfetta, con le intenzioni, capendo come si usa la voce, allora a quel punto uno può cominciare, magari sono dei corsi in giro di approfondimento fatti anche da alcuni nostri colleghi molto bravi come Chevalier, insomma, e tanti altri, Rodolfo Bianchi, Massimo Giuliani, insomma qualcuno di noi fa dei corsi per professionisti. E lì poi andare nelle sale, grattare, bussare, come abbiamo fatto un po' tutti. Insomma, io non avevo papà all'interno, eppure sono riuscito a farlo. Insomma. Neanch'io. Esatto. La tua volontà e la voglia poi di imparare, di graffiare, la tua energia che fa tutto il resto. È chiaro che poi se inizi da piccolo sei avvantaggiato. Sei avvantaggiato, certo. Logicamente, se, piuttosto che iniziare quando sei un po' più grande. Però la cosa fondamentale, come diceva giustamente Pino, è innanzitutto essere un attore. Insomma, voglio dire che quello è la cosa più importante, e poi è frequentare molto, stare molto nelle sale, vedere, girare, rompere le scatole, esatto, ai direttori, esatto, anche esatto, se esatto, non c'è mai tempo, però comunque c'è sempre, se si ha modo, tu come direttore ne ascolti, sì, e ti capita, assolutamente sì. Ma uno si deve lasciare stupire, anche perché nella vita chiunque può diventare qualcosa, certo. È direttamente proporzionale alla tua volontà. Nessuno nasce con quel nome e cognome. Ah, guarda, è nato il figlio di Joe Scorsese, come si chiama? Martin. Ah, farà il regista. No. No, esatto. Ma anche perché ben vengano le novità, insomma, se no sentiamo poi sempre le stesse cose. Logicamente, attori miei, sempre dovete sentire sempre la mia di voce. Anch'io, a me non mi frega niente quando vengono i ventenni, tanto non ruberanno, cioè, mai non niente. Vale per me questa cosa, logicamente, anche per me. Se viene un quarantenne bravo, tu fai finta che non c'hai tempo. Esatto, purtroppo, ecco. Guarda, queste immagini non te le posso far vedere. No, quindi... sai, il film è... esatto. Alto grado di sicurezza, quindi non te lo posso dire. Grande autostima. No, che poi è vero, è diventato anche un po' difficile fare dei provini in sala quando ci sono dei film importanti, no, adesso come io ho fatto della una Marvel, battuta, ma è vero. Però è così. Vero, io adesso ho finito di dirigere il film d'animazione che esce adesso, tra l'altro il 18 febbraio, Zootropolis. Ah, quello della Disney, sì. Tanti ragazzi venivano in sala per farsi sentire, però io purtroppo non potevo far entrare nessuno per un fatto di sicurezza che ma non posso... Adesso ne possiamo parlare, anche Guerre Stellari fu messo sotto segreto, noi ci chiamarono un po' tutti a fare il provino di Guerre Stellari, ma il provino era su una bocca chiusa, senza immagini, hanno pure doppiato in quel modo, cioè tutto scuro lo schermo, soltanto chi parlava inquadrato, ma neanche tutto il viso, si scuriva quella parte di viso e appariva quell'altro che doveva rispondere. È stato un lavoro veramente difficile, è un lavoro difficile, impossibile. Sì. Io feci il provino su una parola, The Force is Awake, dico, beh, resto? Sì. No, questa, ma hai capito? Ma pure il vinaro sotto casa c'è la voce pure a questo. Sì, è vero. Ma gli americani quando ci si mettono hanno poi chiamato tutti i direttori di tutto il mondo dentro casa di J.J. Abrams per vedere il film in anteprima e fargli pazzesco. Capire. No, fu devo proprio dire... un'operazione da servizi segreti. Sì. E devo dire anche da direttore quando lavoro, che insomma... Volevo menzionarlo, Carlo Cosolo, su quel film ha fatto un lavoro straordinario, perché è veramente complesso e difficile. Tu l'hai fatto, Guerre Stellari? No, io no, però insomma mi è capitato di dirigere film con un alto grado di sicurezza dove si vede solo la boccuccia e basta, e quindi è difficilissimo per un direttore, per un attore e per un direttore di conseguenza stare appresso a tutto anche quanto, perché quindi... non ci danno mai la pellicola finita in quel modo, cioè anche Cars stesso l'abbiamo doppiato, era in bianco e nero, sì. I disegni non finiti, proprio per evitare la copia pirata. Soltanto noi dobbiamo avere tanta fantasia. Ma anche perché noi quando interpretiamo, prima diceva giocavamo, no? Però quando interpretiamo noi la cosa importante è seguire anche i movimenti, come si muove l'attore, quindi gli stessi fiati. E se tu non lo vedi quello che fa, dove sta, in quale contesto sta, esatto, non riusciamo, che corpo gli dai. Non riusciamo a farlo. Qui leggo anche, questo non lo sapevo, ma abbiamo tante cose. Poi se volete sapere qualcosa di più sul nostro mondo, sapete dove c'è Antonio Genna che ha un mondo. E poi c'è anche il mondo dei doppiatori, insomma sono delle situazioni che sanno più loro di noi come i nostri quello ascoltatori. Quello è poco ma sicuro. C'è Baywatch. Baywatch facevi due personaggi, sia Matt Brody che Eddie Kramer. Ti è mai capitato di parlare con te stesso? E come ci sei riuscito? No, quello non è possibile. Quello non è possibile. Perché? Perché erano varie stagioni, allora Mediaset... Avevo fatto le prime stagioni, poi il mio personaggio era il primo, era scomparso, e dopo 2-3 stagioni è comparso questo personaggio nuovo e Mediaset volle... Ancora averti. E perché ci doveva, questi sono i messaggi, ci doveva essere un altissimo grado di sicurezza nel film di Star Wars? Perché doveva uscire in parallelo in tutto il mondo, anche per mantenere quest'aurea intorno di segretezza, di mistero, la storia, insomma, fa anche questo parte di un marketing importante di un film. E poi per evitare che qualcuno possa mettere in internet o su Facebook delle immagini in anticipo. Diciamo che tanto è per la sicurezza, è un po' come la fila davanti alla discoteca, insomma, ecco, esatto, diciamo che dentro non c'è nessuno, esatto, però fai casino fuori. Esatto. E poi infatti i doppiatori giovani della mia età a 20 anni si contano sulle dita di due mani. Ma no, se no, sempre no, ci sono, eh. Ci sono, no, non è io vero, sono meno ci esperto sono. Perché non faccio il direttore, no, faccio no, l'esecutore. Ci sono, ci sono. Anzi, doppiatori di 20 anni anche ci bravi. Sono, ci sono anche tanti bravi. Però cioè, quella è la storia è Aquilone, Flavio Aquilone sta intorno a quell'età. Sì, allora. Flavio Aquilone, Puccio, insomma, ce ne stanno diversi che insomma lavorano. Certo. Poi c'è spazio, insomma, questi sono quelli esperti, quelli bravi, e poi c'è tempo. Insomma, se uno ha voglia e modo, a 20 anni si ha anche tempo, insomma, per cercare di. Insomma, se ce l'avete a 20 anni. Noi ce ne abbiamo 23, esatto, sono 3 anni che uno ha cominciato. Esatto. Hai capito? Insomma, pure Baywatch, in effetti, hai cominciato a 5 anni. Eh sì. E delle anime, a parte, non è una buona razza, sì, leggo anche il demone Sesshumaru. Sesshumaru, Inuyasha. Inuyasha. Ma sì, no, io questo rito sempre, cioè, è importantissimo, sì, perché sì. Poi abbiamo degli estimatori. Sì, i cosplay, sì, sì. Poi che li si arrabbiano. No, ma ti racconto questa cosa, perché la primissima serie di Inuyasha l'aveva fatta la società dove io normalmente insomma collaboro, che è la CVD dove lavoro. E quindi doppiavo Sesshumaru. Poi è successo, adesso non ricordo neanche per quale motivo, che la serie non l'ha fatta più la società con la quale io normalmente lavoravo, e quindi è andata da un'altra parte e l'hanno doppiata con altre voci. E tante volte mi arrivavano a me sui forum arrabbiati con me, come se fosse stata una mia scelta. Hai capito? Non c'entro niente. No, prendono proprio di punta. Sì, No. Amano follemente il doppiaggio. Signori. Ci salutiamo per poco, lo sapete, rimaniamo ancora un altro blocco insieme all'amico Massimiliano Manfredi. Mettiamo un pezzo di Troy. Cosa facevi in Troy? Diccelo. Ah, come facevo? Facevo pari. Lo so che facevi pari. Tutti quelli. Orlando Bloom. Era adesso sempre... mi ha detto bene, mi sono ricordati tutti. Okay? Bravo, perché ogni tanto i miei colleghi non si ricordano che facevi. Boh, non mi ricordo. E allora Paride, Bloom, Manfredi. E a fra poco. Conchiglie dal mare di Proponte. Bellissime, ma non posso portarle. Menelao ci ucciderebbe. Non avere paura di lui. Non è di morire che ho paura. Ho paura di domani. Ho paura di vederti salpare sapendo che non tornerai più. Vieni con me. Se verrai, non saremo mai al sicuro. Gli uomini ci inseguiranno e gli dei ci malediranno. Ma io ti amerò finché non bruceranno il mio corpo. Io ti amerò. Voice Anatomy. Quanti voci eroiche hai fatto, sì, con Orlando Bloom. È stato un momento che era sempre in costume. Sì, Pirati dei Caraibi. In costume, non perché faceva Baywatch. In costume, perché insomma Troy. I pirati, cioè abbiamo i Pirati dei Caraibi, caro Valerio, caro Fabiani. Cara Navarro, lì fa una. Non mi chiede il nome, non me lo ricordo. No, è difficile. Ti nomi uno, può anche non ricordarsi. I Pirati, non me lo ricordo. Che poi, st'altranno, credo che lo devo anche rifare. Torna perché Johnny Depp, devo dire che azzecca quella serie, ma gli altri film ha un po' steccato ultimamente. Sì, sta zoppicando. Torna pure nel nuovo di Tim Burton, in seguito di Alice, nel paese attraverso lo specchio. Sentiamoci questo dopo Paride, dopo Legolas. C'è lui che non ci ricordiamo come si chiama. Scrivete Warner? No, non mi ricordo. Ditecelo voi, radioascoltatori. Vai. Quando ero piccolo in Inghilterra, mia madre mi ha tirato su da sola. Dopo la sua morte sono venuto qui in cerca di mio padre. Pensa un po'. Mio padre, Bill Turner. È stato solo dopo aver saputo il mio nome che hai accettato di aiutarmi. Era quello che volevo e non ho indagato. Non sono un sempliciotto, Jack. Tu conoscevi mio padre? Lo conoscevo. Era uno dei pochi a conoscerlo come William Turner. Tutti gli altri lo chiamavano Sputafuoco o Sputafuoco Bill. Sputafuoco? Bravo uomo, bravo pirata. Ti giuro che sei uguale. Eccolo, è Turner. Sì, è Will. Will, ma io lo sapevo. No. Volevo vedere se lo sapevate voi. Beh, non è un nome, dice altisonante, dice Will Turner, te lo ricordi. Esatto, no, esatto. No. È tanto che non lo facevo, quindi. Senti, visto che è San Valentino, abbiamo aperto con una storia tratta dalla 25esima ora. Facciamo una cosa forte. Un po' più. Dobbiamo un cercare più dolce. Di tornare un attimo indietro. Un po' più di cattivarmi delle simpatie. Dai. Esatto, di qualche signora che sicuramente con la voce l'avrei anche raggiunta, insomma, per carità di Dio. Però adesso scegliamo un'altra musica di sottofondo, magari tratta da un film, Le regole della casa del sidro, che mi piace molto. Bella. Mi piace molto. E adesso c'è il nostro Damiano che riprende sempre il momento dove i nostri attori recitano qualcosa, perché poi sul sito, su Facebook, ci va. Allora io direi una cosa, che tutte le donne che stanno ascoltando in questo momento questa poesia... Poi fai una dedica poesia, anche personale, esatto, dai, certo che la dedico. Chiudano gli occhi e immaginano il proprio uomo che le dedica questa poesia. Io personalmente la dedico al mio grande amore, che è Dalal. Bene, Dalal, allora, no, aspetta. No, perché... non me lo rovinare. No, dai. No, Dalal, nel senso, è un nome. Sì. Perché sembra un errore di pronuncia. No, lei è proprio Dalal, Dalal Suleiman. È un nome arabo. Ma che bello. Meraviglioso. La donna ideale di Orlando Bloom nei suoi film. Sì. Dalal, no, è bella questa cosa. Dalal Suleiman. Tra l'altro... Suleiman di origine? È palestinese. Lei è nata a Napoli, però di origini palestinesi. Beh, anche particolare, due terre di mezzo. Sì, sì, totalmente di mezzo, sì. Dalal Shamel, bellissimo. E quindi io... Siamo un personaggio di un film. Sì. Non potevi innamorarti. Infatti lei è una bravissima attrice, tra l'altro. Oltretutto. Quindi. Ma parla la lingua, ma a parte l'italiano, parla anche l'arabo. Sì. Ma se nello studio, perché io ho intravisto... Sì, c'era. Un cuore femminile che vagava per lo studio, è lei. E allora la facciamo parlare. Sì. Io la faccio anche entrare. La fai entrare? La fate entrare, cioè, è scappata. È scappata, se la conosco è scappata. No, Dalal, sì. Vieni di qua. Ma come, non senti nemmeno la mia poesia? Oh, scusate, per voi che siete soltanto in ascolto e non visivi, Massimiliano... è venuto accompagnato, come capita a tutti gli amici che vengono in radio, chi con un amico, chi con un'amica. Lui è venuto con un pezzo di cuore. Dalal però se sei un'attrice, Dalal, e allora vieni. T'ho detto, vieni. Dalal a qual, dai vieni qui, vieni. Dai. Oh. Sta venendo Dalal, ma anche perché parliamo di voce. Santa miseria, abbiamo una persona che viene oltre qualsiasi tipo di frontiera. È vero, il viso è assolutamente... Buonasera. L'ho capito, però l'ha detto in italiano o in arabo? No, italiano. Ah, in italiano. Il microfono, questo, caro Valerio, di qua. Allora, cuffia e microfono. Ma Dalal, puoi mettere la cuffia? 2 minuti. Sì, cioè, 2 minuti, ti dà, non di più. Non ci dà di più, ma no, proprio... no, perché da contratto lei più di 2 minuti non allora, può... spiegami un attimo, Dalal, prima di cominciare a regalarci questa poesia. Sì. Tu vieni da Napoli. Io sono nata a Napoli, sì. Andiamo più alto il microfono, eccolo qua, senza toccarlo. Vieni da Napoli, mamma è napoletana. Mia madre è napoletana e papà... mio padre è palestinese. Si sono incontrati dove? A Ischia. No, No, al Napoli, perché mio padre è venuto a studiare a Napoli. È quell'altro microfono? Scusa, Valerio mi dice che è l'altro microfono. Perdona, abbiamo tanti microfoni, anche... ecco, è quello lì esattamente, lo sentiamo dal rumore che sta facendo. Eccomi. Avvicino tranquillamente, anche perché sta buttando giù tutto. Dall'altro. Scusa, in effetti non era previsto un inserimento d'oltreoceano, d'oltre Mediterraneo. La bellezza della diretta, no? Viva Dio. No, facendo tanto, Dalal che cosa significa, visto che parliamo anche di voce, parliamo... Colei che ama le coccole, le carezze. È per questo che sta con noi. Massimiliano vuol dire, in italiano lo diciamo noi, colui che ama dare coccole e carezze. Esatto. Perché viene da Manos, Miliano... Sì. Massimus. Massimus. Guarda, qui si arrabbiano perché... No, non va arrabbiato. Ti chiamano SMS 2B laureati e ci distrugge. No. Non potrebbe essere altrimenti, perché io le pretendo. E il cognome? Suleiman. Suleiman, mm-hmm. Che è magico. È meraviglioso. La principessa... d'Oriente. Dal sultano, Soleimano. Tu parli arabo? Shuai, pochino. Come l'hai detto, scusa? Shuai, pochino. Un napoletano però, Shuai. Vabbè, napoletano. Ci sono tantissime parole napoletane che vengono dall'arabo. Cioè? E, tipo, adesso non me le ricordo, però comunque mio padre, mio padre e mia madre me ne parlavano sempre. Cioè loro si sono capiti subito. Si sono capiti subito. Napoli si fa capire ovunque, si fa capire benissimo, non solo a GMS, musica. Eh sì, tu senti, io vorrei sentirli, i miei amici napoletani musicisti, fra, vabbè, a parte Tonio mio Esposito, Tullio De Piscopo, Senese, quella scuola straordinaria di percussionisti, ma ci sono persone, Enzo Avitabile, ecco, Enzo Avitabile, veramente Enzo Avitabile, vorrei ma averlo qui. Sai qual è la meraviglia di Napoli? Io adesso poi, col fatto che ho questa meravigliosa cosa con Dalal, spesso vado a Napoli, cosa che prima non mi capitava. Due mesi l'anno io sono a Napoli, anche io facevo reazione a catena. Per la cosa meravigliosa di Napoli è che praticamente è una città di attori, sì. Tutti. Dai commercianti ai postini, i tassisti, sono tutti attori in realtà, e quindi sembra di vivere dentro un palcoscenico, dentro uno spettacolo. C'è un calore, ti gratificano veramente. Se ti senti giù o depresso, sì, ti fai una passeggiata sul lungomare, te conosco, ti portano in braccio ovunque, ti vogliono bene. Come il romano, se il napoletano esagera, o il romano come noi esagera, diventa troppo. Però il napoletano veramente, dove l'impossibile diventa possibile, ma dove è vero che anche il possibile può diventare impossibile. È vero. Però è bellissimo. Quando sono andato giù, dice, io ho fatto, ce l'avete etelline? Volevo. E tu ninel. Sì, e dico, tu ninel, ci sta? Non ci stanno. Ma per voi ci stanno. No, vabbè, questi sono giochi. Lui, poi pizza, i friarelli, cioè ti offrono. C'è il cuore, ma non soltanto a te che sei conosciuto. No, affettuosi, sì. Vedete anche allo stadio, la gente. È gente... veramente lì c'è una commistione, no, poi c'hanno delle espressioni delle etnie meravigliose. Tempo fa, i primi tempi che stavamo insieme, insomma, stavamo, dovevo comprare, a me piace molto cucinare, anche a lei, no? Allora volevo comprare una teglia per fare una crostata, no? Allora stavamo in giro e faccio, Dalal, senti, dobbiamo fermarci in quel negozio perché voglio comprare, e non mi veniva il termine teglia. E dicevo, oddio, come si chiama quella cosa che ci si fa la crostata, come si chiama, oddio, dai, Dalal, aiuta. E lei, ah sì, il ruoto. Io faccio, che? Il ruoto. Ma che ruoto? Ma quella che ci si fa la crostata, come si chiama? Il ruoto. Ma no, la teglia io faccio, la teglia, che ruoto? Ruoto. Il ruoto, ma perché fa la forma del ruoto? È italiano. Ma che è italiano? Ma è italiano. Va su internet, va sul telefonino, guarda, ruoto. Tipica espressione napoletana che sta a significare teglia. Ma per noi il ruoto a casa a Napoli, per noi il ruoto, non esiste teglia, la parola teglia non esiste. Non so, in arabo come la teglia. Non lo so. Non lo so. Non lo so nemmeno io. Non lo so, ma tu lo parli bene? No, guarda, no, io l'ho studiato all'università e quindi ho studiato l'arabo classico. A Napoli. Sì, anche e in famiglia come parlavano? In italiano. In italiano anche, sì, papà? Sì. Insomma, poi è un momento poi difficile, insomma, essere, no, è una terra difficile. Sono due terre molto difficili. Sì, due difficili. Terre di fuochi, veramente, sono due terre di mezzo. Sì. Però noi siamo qui e lui ti stava dedicando, però sta per finire questo blocco. No, al volo. Incidi. Incidi, non è, c'è doppiaggio. Devi fare una poesia bellissima. Ragione. Abbiamo incastrato Dalal Shalaiman, no. Suleiman. Shalaiman è il regista del Sesto Senso. Esatto. Suleiman, casino di film. Lui non ha un significato, Suleiman, non è un cognome come Manfredi. Sì. Perché che c'è con Manfredi? No, Manfredi è bello. Manfredi sta a significare persona molto intelligente. No, questa è una stronzata vera, non è vero niente. Io insegno, per esempio, c'è il cognome, è un verbo. È vero. Dire che il mio nome suona meglio in inglese. Io mi chiamo Giuseppe, insegno. Okay. In inglese suona come Joe I Teach. È bello questo. Joy Teach. Anche perché Pino. No, Pino, quando mi dicono ma è un nome d'arte, ho fatto, me ne scegli uno meglio, no? Pino insegno, non si può sentire. Scusate la mia curiosità, dice un'ascoltatrice Chiara, ma per me è meraviglioso potervi scrivere, ma puoi anche parlarci se vuoi. Mi farebbe piacere che ricordasse Ottavio Rolando Ricci, che per 30 anni si è occupato di doppiaggio e che oggi non è più fra noi. Grazie. Assolutamente sì. No, sai che non lo sapevo. È vero. Sì, mi piace ricordarlo anche a me, Ottavio, perché in un momento, quando proprio cominciavo, che non era poi facile per una persona che stava agli inizi, devo dire che Ottavio, nella sua piccola società in Prati, quartiere di Roma, mi chiamò per fare uno dei primi protagonisti di una serie. E lo ringrazio, veramente. Non lo sapevo. Bella questa cosa di questa ascoltatrice. Attenta, bella. Sono molto attenti, ripeto. Sì, è una radio che io amo profondamente, perché si riesce a parlare. Non è una radio plus, due secondi, musica, due secondi. Si parla. Magari escono stupidaggini, ma tante volte anche cose intelligenti, come oggi pomeriggio. A tra poco, Voice Anatomy, rimanete con noi. Voice Grey's Anatomy. Eccoci, 15:32 primi e 6 secondi in diretta a Radio 24. I nostri numeri li conoscete, 349-238-6666, gli sms. Abbiamo i WhatsApp un po' incasinato, nel senso che si blocca, va bene, ma non c'è problema, sono gli sms che arrivano puntuali, 800-24-0024, non siate timidi. Sono un po' timido. Mandate. E eccetera. Eravamo rimasti con Dalal, che ci ha raggiunto. Tu sei un'attrice, visto che ci sei, parliamo di voce. Sì. E tu quanti anni hai? Si può 34. Dire 34. Si può dire ancora. Appena finito l'Orestea, cioè a teatro, insomma. Dove sei stata? E siamo stati qui anche a Roma, all'Argentina. Ma niente, un teatrino. Sì, una cosuccia. Ma anche gli altri teatri in giro per l'Italia, una cosuccia. Proprio. Allora dobbiamo essere molto carini con Dalal, è l'unico che potrebbe sistemarci, insomma, fra me e te. No, non credo, Ma due voci fuori campo vi serviranno, dico, esatto. In uno spettacolo. Ce l'hai uno a casa, esatto. Ma se ti serve uno più profondo vengo io, insomma. Non c'è problema. Sono stata molto fortunata perché ho lavorato con grandissimi attori quali Mariano Rigillo, Angela Pagano, Elisabetta Pozzi, che sono veramente... Ma se io credo nella fortuna fino a un certo punto, io credo la fortuna arriva, ma se tu c'hai la valigia anche piena di qualcosa da dire, perché sì, è vero, certe cose combaciano, altrimenti non ti danno la possibilità di arrivare lassù. Però comunque in questo momento storico mi ritengo fortunata, perché comunque fare una tournée con grandissimi attori, grandi teatri, mi ritengo abbastanza fortunata. Come a me neanche Manfredi non mi ha chiamato nell'ultimo film, per cui non mi ritengo fortunato. A me sì. Posso capire, perché sei brava. Chissà perché. No, invece no. Doppiaggio non esiste questo tipo di raccomandazione. Due cosine ho detto. No, ma non esiste, lo dicevamo prima di cominciare la trasmissione, è l'unica ambiente, lo urlo sempre, dove se perdi un premio tu lo vince un altro bravo, non è possibile, magari è una cosa più piccola per far fare esperienza alle persone, ovviamente se le conosci a parità di merito in tutti i campi uno prende un amico, certo. Ma sotto merito un amico non è che Massimiliano, perché mi vuole bene, mi chiama in tutti i film perché devo fare una... No, non è così, lui mi chiama se è giusto che io possa fare quel ruolo, altrimenti sono d'accordo. No, è assolutamente così. Evitiamo di farti fare un monologo tratto da Orestea per non ferire nessuno a casa, perché dal vivo si regge, ma magari per radio c'è gente che dice anche ma dal vivo è duro, però è bello, però bello, no, è molto bello, io l'ho visto, stanno anche le partite, uno dice vediamo un po', a meno che non siano finiti i primi tempi, no, ancora no, siamo al 34esimo, per cui cerchiamo di mantenere, non parliamo di partite, no, io non penso, che sono qui molto volentieri, così non so che cosa fa la mia squadra, me lo dicono soltanto i tre moschettieri alla fine della mia trasmissione, anzi oggi, anche oggi devo correre di corsa, ho le ultime due repliche a teatro e poi ringrazierò tutte le persone che sono venute, dove sto facendo l'Odissea di Omero totale, sono 6:12, sì, apro io proprio, figlio di Torri di Ilio, la gente poi muore con me lì, esatto, alla quinta ora, no, una cosa molto più leggera ma interessante. Ciao Pino, ci sono doppiatori sardi, dovrebbero essere molto bravi visto che parlano con le doppie. Ciao Andrea, cioè vuol dire che noi non ce l'abbiamo? No, io certe volte non ce l'ho, è vero. Io pure. No, invece tu pensa che il sardo è proprio è più difficile da togliere, si sente molto di più, pensate, che magari anche uno del nord-est, eccetera, o il siciliano, ma il sardo ancora di più, perché c'è proprio un modo di pronunciare le parole che è difficile da togliere, pensate. Ma anche perché diverse regioni hanno proprio, tante regioni hanno un dialetto, il dialetto è sempre un po' più complesso da pulire e da portare diciamo in maniera semplice o in maniera vera davanti poi a un microfono, mentre per esempio per quello che riguarda il romano in realtà è più una cadenza, sì, che un vero e proprio lingua, dialetto, certo. Insomma, voglio dire, quindi sotto quel punto di vista diciamo è un po' più semplice, anche se è vero, hai colto nel segno che le doppie io non le dico, perché sì, anch'io ogni tanto anche Renato fonici... Rizzo mi diceva metti due, detto con due T, sì, come Torino della. Ogni tanto esce anno è brutto quando c'è con una... proprio ieri mi è capitato, l'altro ieri, un film dopo molti anni, ecco, l'ha detto Pino, non so dopo quanti sederi tu hai detto questa parola, ma è venuto Ani con una N, forse una N e mezzo, mettiamone due, quello succede. Però visto, dicevamo prima all'inizio, abbiamo cominciato come San Valentino, una bellissima introduzione, una musica di De André indimenticabile, indimenticata, abbiamo la possibilità di avere lui, Massimiliano Manfredi, e avere lei, dall'altra parte, chissà quante volte con questo nome ci hanno giocato, per cui troppe. Come insegno, ma io cerco di essere ci fa sei spettacoli Pino sul sì, nome tuo, sul nome tuo se mi capiti io posso andare avanti. Però allora abbiamo scelto, i nostri autori, Alessia Navarro soprattutto, ha scelto questa poesia che è proprio, no, è proprio Prévert, sì. Credo che sia sinonimo di amore, anche di intensità. Neruda, ecco, Neruda. Appunto, Pablo Neruda. No, non vi arrabbiate, ok? Pensavo fosse Prévert, perché all'inizio parlavamo di Prévert. E invece Pablo Neruda, che anche lui non è da meno. Insomma, una cosuccia, insomma. Ricordiamo anche Nuda, dove Massimo Troisi la disse in maniera bellissima nel postino, per cui resta quelle note dette. La poesia poi è di chi la dice, non di chi la fa, come diceva Massimo nel film. Questo è Il bacio, sì, di Pablo Neruda. Tu hai detto la dedicavi a questa persona immaginaria che invece era presente. Era presente, l'abbiamo incastrata. Esatto, per la sua gioia, perché me la farà pagare per il resto dei miei giorni. Ma no, abbiamo parlato di cose belle, dell'intensità con la quale porta avanti il suo mestiere, per cui non è una bambina presa per caso. E allora, quindi dicevo, tanto se facciamo partire, no? Mi permetto. Facciamo partire il fonico, ma magari se ne va. Lui resta. Vabbè. E dicevo che sarebbe bello se la donna immaginasse di chiudere gli occhi e pensasse che questa poesia gliela dedica il proprio uomo. A tutti voi donne. A tutte. Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Vorrei essere una nuvola bianca in un cielo infinito, per seguirti ovunque e amarti ogni istante. Se sei un sogno, non svegliarmi. Vorrei vivere nel tuo respiro. Mentre ti guardo muoio per te. Il tuo sogno sarà di sognare me. Ti amo perché ti vedo riflessa in tutto quello che c'è di bello. Dimmi dove sei stanotte ancora nei miei sogni. Ho sentito una carezza sul viso, arrivare fino al cuore. Vorrei arrivare fino al cielo e con i raggi del sole scriverti: ti amo. Vorrei che il vento soffiasse ogni giorno tra i tuoi capelli, per poter sentire anche da lontano il tuo profumo. Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi. Mi sono innamorato di Manfredi. Dovrebbe esserci, secondo me, un pronto intervento attori che aiuta le persone che vogliono, vorrebbero regalare un sogno alla propria fidanzata, alla propria moglie, come le serenate. Sì. Si chiamavano i cantori, e ci sono, li chiamerò anch'io, perché c'è una famiglia di storica, proprio sono degli artigiani della serenata, straordinari, e li chiamerò, sarà una sorpresa, anche perché sono anche figli di un grandissimo, grandissimo cantore di Roma. E questo è bello, uno dice: guarda, devo dire ti amo a mia moglie, ma non ci riesco a dirlo, perché sì, capito? Io dici tu. Metti o un'applicazione sul telefonino, esatto. Pronto doppiaggio, sì. Proprio, pronto intervento. Ti chiamano, chi è libero? Quanti anni hai? 50. Allora chiamiamo, che so, Pedicini, Brando. Chi scegli? Pedicini, Brando, Manfredi, insegno. Word e clicchi. Esatto. Quello che vuoi, ti appare, e tu a tua voglia, mettendo il nome in mezzo. Un'app, bello. Un'app, bello. Cambiando solo il nome, perché sennò dici tutte neutre. Invece a Marisa, tu fai tutte le cose e si va, non sarebbe male anche doppiare dei professori a scuola che rendano magari più interessante una lezione, un po' più simpatici soprattutto a volte. Sì, perché noi parliamo anche di questo, di voce, oggi ci siamo insieme un po' di più, ma normalmente parliamo anche di quello dal punto di vista tecnico, cioè la voce in tutte le sue declinazioni, e sarebbe bello che a scuola si insegnasse proprio la voce. Abbiamo uno strumento che è importante da utilizzare, queste piccole corde vocali che fanno tutto, che poi è anche il fascino di una persona, che non è tanto la bella voce, lo dico sempre, ma sono le belle intenzioni giuste, quelle che interessano, ti rendono attenti, eccetera eccetera. E la voce aiuta moltissimo anche a coprire quando magari mancano i contenuti, la voce riesce a coprirli molto di più. Noi dobbiamo fare tutto questo anche perché non abbiamo manco il corpo, per cui esatto, dobbiamo... abbiamo solo l'ausilio della voce. Esatto. Ti racconto una cosa meravigliosa che è successa a mio figlio a scuola, no? Insomma, mio figlio normalmente è romano. Quanti anni ha adesso? 11. Adesso il 16 marzo ne fa 11. E lui normalmente, insomma, lui è nato a Roma, però insomma ci sto un po' attento, insomma, quando dice qualche parola così. Io non ci riesco. No, nel senso, ma così, no, non è che sì, so, in maniera puntiglioso, certo. Puntiglioso, però ogni tanto se dice qualche strafalcione, insomma, un po' lo correggo. E la cosa bella, una delle prime volte che andavo a scuola a parlare con le maestre, e mi chiedevano, talmente abituati a oh, senti, devo dire l'altro giorno che hai visto che cosa, che ha fatto, che mi hanno detto, mi scusi, ma suo figlio è nato a Milano? Io faccio no, veramente no. Mio figlio è di Roma. Io ho detto, sto solo un pochettino attento a fargli dire le parole, insomma, più giuste possibile, che solo questo, non è che è nato a Milano. Senta, allora le volevo dire, no, maestra, bambino di Roma che parla milanese, stia attenta a quello che dice. Difficile, esatto. La calata si sente assolutamente, esatto. Come vi siete conosciuti allora? A questo punto diventa un altro tipo di trasmissione, diventa una domenica in particolare. Fatelo dire da lei, se no io parlo troppo. Ero interessata al doppiaggio e tramite un amico mi ha messo in contatto con Massimiliano, perché mi ha detto non evita di fare scuola, insomma ti presento direttamente un mio amico che fa il doppiatore. E chi era questo? Un collega nostro? Leandro Amato. Leandro Amato, attore, sì, bravissimo attore di teatro, della Nazionale Calcio Artisti, che la fondammo insieme a Troisi, pensa che ricordi, con infatti, Leandro. E adesso giochiamo insieme nell'Italiana Attori con Leandro. Beati e qui, voi, noi abbiamo una foto che giochiamo con la Nazionale Doppiatori. Sì, Ferruccio Amendola, c'erano tutti quanti. Vabbè, lasciamo stare che c'ho i muscoli che non mi rispondono, vai. E Leandro ti ha messo in contatto con lui. Sì, così ci siamo sentiti e lui mi ha portato a seguire un po', insomma, doveva fare dei turni di doppiaggio e sono andata con lui. No, siccome poi Leandro racconta la cosa divertente, Leandro è un po' sola nelle conoscenze, diciamo, femminili. No, ti faccio conoscere una io. È sempre così, sono nei film, esatto, film succede, ti presento un'amica e tu ti innamori, eccetera. Al momento quando ti porto un'amica dico santa miseria, o ti porto un amico, chissà per com'è, tirarti fuori da questo dramma che allora, stai vivendo. Sia lei che io conosciamo bene Leandro e quindi sapevamo che era sola, e quindi cioè, chissà che sorcio o che mostro ci presenta, fa venire qui. E invece stranamente poi perlomeno a me piace, a me già dal nome, a me è piaciuta, a me già il nome e cognome avrebbe conquistato. Poi magari si presentava con un po' di baffetto, però però no, devo dire che mantiene nome e corpo, nome nomen si dice, o oh, cave camen attenti al cane, non so, è meglio che sto zitto perché sennò qui un minuto, è arrivato il nostro ospite un po' in ritardo, ma non ci è mancato quasi per niente, io lo caccerei via, disgraziato che non sei altro, ma una scusa molto importante per tutto questo, neanche il traffico, perché non c'è domenica, no, domenica. C'è neanche Lazio e Roma, non niente, c'è giustificazione, non c'è niente, né una manifestazione, niente. C'è gente che sta andando a teatro a vedermi, ma sono 300 persone e non occupo tutti al ristorante a mangiare perché è San Valentino. Esatto, proprio non c'è niente, scusa. E allora mancano 4 secondi per salutare, vai. Beh, grazie di tutto, no, grazie a te, è Massimo. Stato veramente un piacere stare con voi e vi do un bacio grande grande grande. Andate sempre al cinema, che è una cosa fondamentale, a prescindere adesso di andare a sentire voce o meno, perché è bello bello, è bello il cinema, sì. È un e andate spettacolo. Anche a teatro, scusatemi. Sì, quanto durava l'Orestea? Troppo. 4 ore. Va bene, bene, arrivederci. Tra pochissimo ci ha raggiunto l'amico Dado, e sapete di chi sto parlando. A fra poco con voi, Sanatomi. Ciao. Voice Anatomy. Eccoci, siamo un po' indaffarati perché ci ha raggiunto Gabriele Pellegrini, in arte Dado, siete abituati a conoscerlo come colui che rindaga nel mondo della musica e la ricanta, come dice lui, con le storie che dice lui all'interno delle note che invece conoscete perfettamente. Sta appoggiando la chitarra, ma non appoggiare Pellegrini, che è successo Pellegrini, che mi ha dato sta... Mannaggia, guarda, quella classica scusa che si usa alle scuola. Scuole medie, esatto. Cioè, non ho potuto studiare perché è morta nonna. Che qualche volta forse l'ho usata, stavolta è successo. Veramente, e oggi mi dispiace, ma ha chiamato mia madre stamattina, era nell'aria perché 98 anni, Pino, ma magari arrivarci a tutti no, quanti. strozzata nella culla proprio. Mamma mia, 98 no, anni, un rettile sembrava, perché, come tipo di immortale. Sì, sì, una, sai quelle che attraversano le ere geologiche, quindi una tartaruga. Non ha soffetto, insomma, una tartaruga straordinaria. Vecchiaia. Nonna Adriana Basile, alla quale io ho dedicato un monologo, cioè una cosa, perché mia nonna ha attraversato due guerre mondiali, una rivoluzione sessuale e una Milano da bere. Pensa che cazzo, pensa che ha potuto fare mia nonna. Insomma. Due, tre, quattro repubbliche, 12 vane. Sì, sì. L'ultima cosa che ho visto che hai cantato. Hai evitato insieme... WhatsApp. Sì, l'ha saltato, sì, di netto. L'ha saltato. L'ultima cosa che ho visto che mi arriva sempre con una lotta. Come no, l'ultima. Quella non la puoi fare. Ho iniziato a fare Canta la notizia con. In duetto. Sì, sì, delle ospitate. Insomma. Dimmi perché piangi. Anzi, ti ospiterò anche la prossima, perché avere la tua voce. La voce di io, possiamo fare parole parole. Io ti faccio Alberto Lupo e tu fai Mina, puoi cambiare quella. Ma è incredibile, dove perché si recita. Chiudere gli occhi e ascoltare Pino è un conto, guardarlo in faccia è tutto un altro. È tutto la stessa cosa dice mia moglie. Dato. È bello chiamare un amico che esalta le tue possibilità. Così. Senti, amico mio, beh, una cosa me la devi far sentire. Sì, volentieri. Mannaggia, vorrei utilizzarti una cosa un po' di più. Nazional popolare. Tu però mi torni, Dado. Sì. Nazional popolare. Aspetta che ti riprende Damiano, perché queste vanno non sul sito mai. Di Voice Anatomy su Facebook. Allora, questa è dedicata a tutti quelli che hanno figli e noi ne sappiamo perché qualcosa. I nostri vanno a scuola insieme. Esatto. Almeno mia, se ormai sei diplomata, il tuo mi sa che ancora... Si sta diplomando, Matteo, sì, manca era di un annetto sì. fuori di... Però, insomma, sembra che guardasse... L'hanno boicottati perché... O mia figlia guardava lui o lui guardava... Non lo so, cioè, girava vuoi questa dire voce. Che diventiamo parenti e te... Ma, insomma, girava sta voce. Non detto, è male. Perché molti pensano, siccome siamo personaggi dello spettacolo, allora devono avere che fare per forza anche i nostri figli. No, cioè, non è vero. Devo però... capire il tuo 7:40, vai. Figli! Per fare un figlio ci vuole il seme. Eh sì. Per fare il seme ci vuole la prostata. Per controllarla ci vuole il dottore. Col dito indice da esploratore. Se è scrupoloso ci sta un paio d'ore. No, un paio d'ore. Ora è sicuro. Avere un figlio è come un dito. Ecco, questo è un augurio per chi vorrebbe, volesse un figlio. È la cosa più bella del mondo avere figli. Io poi ne ho tre, quindi è la cosa. Cioè esiste anche il cinema, il teatro. Tre cose più uscire. Belle del mondo. Sì, esatto, sì, tre cose tutte. Che annientano i vari mondi, perché uno metti una cosa bella, conta un'altra cosa bella, poi se fanno la lotta a vicenda. Ma loro cantano, qui parlando di voce. Sì, tu, sì, della voce ne hai fatto. Canta, la seconda pure, quello le prende in giro. L'ultimo, che maschietto, è dedicato alla presa in giro delle sorelle che cantano. Si stanno sotto la doccia, sì. Da quando quella si depila, perché iniziano a girare queste cose. No, dentro... Maschi e femmine, quante sono? Due femmine, due femmine e un maschio. Però la grande, non so, c'è una femmina grande, no, non tre maschi, tre maschi. Non si depilano. Non sai che cosa succede, perché finché un rasoio ti sparisce, magari è baffetti. Sì. Ma quando ti sparisce e lo ritrovi pieno di una sostanza melmosa, perché sai che fanno loro? Si depilano con delle creme che poi si impasticcano dentro il rasoio e diventa una schifezza. Lo devi buttare dopo. Lo devi buttare. Lo devi buttare. Una, tu con un rasoio magari ci fai una mesata. Io almeno ho la barba morbida, perché c'è la barba qualche settimana ce la fai. Con passata sotto un'ascella, una gamba, una caviglia, non si saprà mai, perché non te lo diranno. Che cos'è? È da buttare per sempre. Solo linguine si può salvare. Non, ma non no, neanche, ma cioè, no, tu te lo passi, ma te ci puoi pettinare tranquillamente con un rasoio passato da. Perché c'è la cera. Ma non lo so cosa c'è, ci sono delle sostanze forse che provengono da un meteorite. Dato, noi la prima volta che ci siamo incontrati è stato al Costanzo Show, sbaglio. Cioè, ma sì, forse io sono venuto a vedere qualcosa della premiata ditta, sì, per cercare di capire che cosa facevano questi quattro. Poi tu sei più giovane. Io sì. Ma no, tu sei vecchio. Sì. Grazie. Dopo voce abbinata al corpo non corrispondente, tu sei vecchio. Mi arriva tardi, mi tratta male. Ti avevo detto se torni, ma guarda, stavo parlando da solo. No, è quello, sì, sei più giovane. Quanti anni hai tu? Io sono del 73. 73, sì, 73. Tu nel 73 c'avevi ancora i capelli col ciuffo. Io avevo già un inizio di prostatite nel 73. Per quello già che avevo 14 anni nel 73. Mamma mia, oggi ci giochi a pallone con la prostata, sembra. Ma hanno detto ci palleggi. Sì, ormai. Ormai è quello. Ho un figlio di un anno e due mesi. Ma assomiglia pure. Poi c'è il cognome mio, per cui va bene così. Tu sei stato anche un cantante scomodo ultimamente, perché ti sei buttato ovunque. Sì, no, sto facendo un format che si chiama Canta la Notizia. Canta per una, notizia, una, sì, una cosa che non so se in radio si può dire tranquillamente. Insomma, sì, io a furia di frequentare per quasi 20 anni, non ci sono arrivato, sì, ma forse manca poco, la televisione, sia quella pubblica, sia quella privata, quella di Stato, quella... c'è sempre una serie di figure autoriali, ma non solo, sono anche questi capi struttura che vengono e fanno, ah, però... è questa battuta, se si può evitare, se, ma no, ma non so, sa, per il nostro pubblico, ma che, qual è il nostro pubblico, il pubblico di chi, insomma, mi hanno sempre detto tagliuzzato, fai e così. Perde poi la io, forza, magari. Perde, ma comunque mi scarico, io dico, ma come, allora ho detto, senti, sai che faccio, faccio un format autoprodotto sul web e vediamo se ci avevano ragione, quella, se ci avevano ragione gli autori a dire che io facevo delle cose troppo da edulcorare, o comunque se sono un apprezzato a prescindere per le idee che faccio. Ma anche perché se uno le dice con grande sincerità, cioè mie... un milione sul web significa un milione di condivisioni, di persone che se lo passano così, per passarsi un contenuto da una tasca ad un'altra, come si fa, beh, significa poi che da prima serata è una cosa importantissima. Ecco, e quindi io, finché ho questa dimostrazione da parte del pubblico, che comunque è sempre pubblico, sta lì, sono loro che decidono. Io continuo sul web con questo format, Dado canta la notizia. E l'ultima è questa con la lotta, che non puoi cantare perché sei da solo, ma ne puoi cantare un'altra di notizia. Sì, beh, guarda, però ti prego, cerca di non un po' edulcorare, cioè di non vabbè, insomma, ma qui siamo alle 24 con la zanzara, che volete fare, avete siamo fatto siamo sdoganati, abbiamo aperto col monologo della 25esima ora, dove la cosa più tranquilla lo faceva, esatto, e lui l'ha doppiato Massimiliano Manfredi, conosco molto bene, è un film meraviglioso, e quel monologo allo specchio è pazzesco. No, allora vediamo una, ma ti posso raccontare un po' la storia, anche perché questo spettacolo che sto preparando proprio parlerà di canta la notizia. Però abbiamo pensato con gli autori, che sono Marco Terenzi e Emiliano Luccisano, dove possiamo uno spettacolo si chiama Canta la notizia, cioè poi va rinnovato settimana per settimana, esatto. Come si può pensare di fare una cosa del genere? Significa avere uno staff, insomma, poi a teatro una redazione importante, ecco, dico, com'è possibile? Allora ci è venuta in mente questa cosa, perché non fare, non immaginare Canta la notizia come se fosse sempre esistita. Quindi immagina dall'inizio sempre, dei tempi, da Romolo e Remo, dall'inizio dei tempi, da Adamo ed Eva, da Adamo ed Eva. Ci fosse una redazione di Canta Notizia che racconta, è un cantastorie, tutte le storie che ci sono. Quindi si parla da... Se serve una voce fuori campo, io ci sono. No, ma senza bellissimo, accordo. Sarebbe meraviglioso. Volentieri, volentieri. Sarebbe, immagina quindi Canta Notizia, Adamo ed Eva. No? Sì. Cogli la prima bella che così... Eva, vai. Eva che col serpente... stai, ci hai messo tutti nei guai, guarda per una mela, guarda per una mela, porca di quella Eva, ecco, questo potrebbe essere, no, l'inizio. Poi dimmene un'altra, ma può essere, ne so, Mosè che divide le acque. Se bastasse soltanto un bastone a dividere le acque e richiuderle sul faraone, raccontate che voleva a combatte, ecco, immagina quanto è bello. Pensa a raccontare così a scuola, sì, la sì, storia, sarebbe più affascinante. Ma io sai, sono straconvinto, senza prenderla in giro, raccontare i fatti veri ma con una melodia che possa essere accessibile, che l'educazione scolastica verso dei ragazzi fatta coi libri, fatta di persone vecchie che sono insegnanti, qui rispetto... qualcuno dice, ma forse sarà dopo il pranzo, noi ti amiamo Dado, un po' di gente, beh, ma vabbè, sono troppo generosi, perché pensano che qualcuno che dice, perché io poi non mi risparmio nel format, no, quindi se devo non dire devi. come Masini, no? Sai Masini che ha cantato quella canzone Vaffanculo? Vaffanculo. Sì, sì, quella canzone, lui mi ha detto: scusa, ma lo sai quanto mi è costata quella canzone? Io non lo sapevo. 10 anni di epurazione, cioè non l'hanno più. Sì, perché poi era un anni. Periodo come Mina in televisione, insomma. Marco sì. Masini per 10 anni perché aveva scritto Vaffanculo. Allora mi sono immaginato che bello se Canta Notizia fosse stata presente al periodo di Masini, no? Avrebbe preso Masini e gli avrebbe detto proprio per entrare in Rai avrebbe cantato invece che Vaffanculo, Pofferbacco. Pensa che figo, Pofferbacco, Pofferbacco, sarebbe stata meravigliosa. Resta un altro far sentire po'. Come, la, faccio, come l'avrebbe voluta ti la ti faccio censura. Rubare un pezzo del blocco della nostra amica Valeria Fabrizi che ha tanto da raccontare, però rimani ancora un po' tu adesso. Sì. Fermati qui e c'è la pubblicità, a tra pochissimo. Poi quanto Anatomy. Sono radiofonico davvero, quanto sono. Dio mio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Voice Anatomy. Eccoci tornati dopo la pausa un po' più lunga dovuta al fatto delle notizie e alla pubblicità. Dado è sempre qui vicino a me, Gabriele Pellegrini. Lo sai che non lo sapevo il tuo cognome? Beh, un nome da chierichetto, tant'è vero l'ho dovuto cambiare per forza di cose perché sennò sembrava Pellegrini fa chiesa, Gabriele Arcangelo. Questo periodo era giusto, però con l'anno santo dai, non sì, ci denuncia nessuno sto periodo. Ma dentro di me che voglio fare l'artista divento subito parrocchia, ma dice, ah, quell'artista da parrocchia, come si chiama? Gabriele Pellegrini. È vero, Gabriele è il nome dell'Arcangelo. L'Arcangelo e Pellegrini, Pellegrini sono insomma, quelli che sono destinati a fare. Quelli che ci abbiamo quindi. In giro per Roma, che portano almeno un po' di soddisfazione, ma non a noi, non a noi come soldi, assolutamente no. Quando è nata? È nato prima il cantante, prima l'attore, che cosa? Il comico? No, io da ragazzino avevo 3 dischi dentro casa, che era uno disco di Pippo Franco, uno dei Goofy e un altro di Luciano Rossi. Ammazzate oppure Se mi lasci non vale. Quindi c'erano questi, e io da ragazzino ascoltavo solo questi 3 dischi. Essendo la parte comica, i Goofy e Pippo Franco, un po' più Goofy. Poi strano, i Goofy Nord, insomma, Milano, sì, sì, sì, la Milano del cabaret. Sono cresciuto Annacci, con questo imprinting di questi tre. Quindi ho la versione cantautoriale che è dentro di me, la versione sempre musicale di Pippo Franco. Qual era? Arachiri? Era Bededè. Bellissimo, che è quello successivo. No, successivo, Bededè era quello successivo. Dove ci sono delle cose fatte, scritte anche dai grandissimi autori che aveva a quel tempo Pippo Franco, c'era Carachiri che era fantastica sugli indiani che diceva: signore, ma perché non vi mangiate le vacche? E voi perché non vi mangiate le monache? Che certe sono pure buone. Ecco, quindi questa cosa in anticipo sui tempi anche senza saperlo, senza sapere di cosa parlare. Io avevo queste battute dentro di me, quindi sono cresciuto con questo imprinting. E poi quindi diciamo ha prevalso la parte più comica, anche se sono un grandissimo estimatore di tutta la canzone d'autore da De André, Gaber, insomma Gaber ha sostituito il mio insegnamento. Poi non vuol dire amare Pink Floyd, non vuol dire non sentire Albano che canta nel sole, insomma non, va bene tutto se sono belle. E poi oggi a 40 anni devo prendere una decisione, ho scelto di essere proprio sfacciatamente pop. Sì, non di nicchia, non di nicchia. No, la nicchia non paga, sta nicchia, sai, tutti questi radical chic di nicchia così alla fine me ne mettono un'angoscia. Non è detto, se una cosa vuoi comica, non è minore, è una cosa comica, anche leggere, sembrano leggere, ma non è così, noi è un combattimento che stiamo facendo da 1000 anni, il comico seppellito fuori porta, non è detto, anzi, il comico è più complicato. Se un attore comico vero, un attore, non parlo di un caratterista, deve conoscere la realtà, saperla rappresentare per poi superarla e far ridere, per cui devi essere in possesso della realtà. Beh, io per poi far ridere con questo format Canta Notizia, guarda Sordi, no, che fa un borghese piccolo piccolo asciugando bravissimo, se stesso bravissimo. E colpendo nel segno. Hai proprio centrato, cioè per me il borghese piccolo piccolo è un mio punto di riferimento nella crescita e nel capire come mai un attore come Alberto solo dire fa, oh, si mangiamo questi maccheroni mai provocato, e poi riesce a parlare di massoneria in quella maniera straordinaria, scoperchiando uno dei capitoli più oscuri dell'Italia. No, ma lui è straordinario, ma è quello, un attore che supera la realtà riesce a diventare divertente, se la togli, asciughi, diventi drammatico, diventa la verità. E per noi, per me è più facile doppiare un film drammatico che un film comico, cioè Will Ferrell o Sacha Baron Cohen mi fa fatica, sono attori comici lo sono io, doppiare Django o Ray Charles o un film drammatico è più facile, perché vai ad asciugare, diventi vero nella realtà di quello che stai raccontando, è come se tu dovessi fare la tua canzone. Tu ne hai scritta una tua. Sì. No? Ho scritto una, tra l'altro un bellissimo gioco di parole, sono tutte canzoni con la doppia T, sono tutte parole con la doppia T. Molto Elio e le storie tese, queste ricerche. Beh, sì, tra l'altro avevo 16 anni, ma te la faccio sentire, sì, è una cosa molto... Tutta con le doppie T. Sì, fa... Tanto si può dire tutto, no? Quindi... Sì, sì, quasi tutto, insomma. Titti tutta tette, fa vedere le tette a tutti e maledetti tutti e tutte quelle tette. Contatto, anni. Detto a titti titti, tu sei tutta matta, sembri fatta con due panettoni motta. Sei una ditta che fa tette, poi la fitta, t'assume se titti è fatta, fai gavetta. Con la petta della ditta ti fai il calco di una tetta, poi la pitta e la brevetta e i diritti sulle tette. Sono 7000 nette. Fammi vedere le tette. E poi vabbè, va avanti. Beh, 16 sto, anni. A 16 anni, no, io a 16 anni. La patatina, papà e mamma, loro orgogliosi di questa situazione. No, beh, io a 16 anni c'avevo soltanto un pensiero fisso, che era quello di tutti i 16 anni. Ma credo che a livello ormonale ma succede questo. Sta canzone, no, diciamo, è edulcorata. Mi sono censurato da solo perché, mamma mia, era non so fino a quando è durata sto pensiero. Ogni tanto mi ci sveglio ancora con questo. Devo ricordo, dire che l'uomo non supera mai questa fase. Non, mi sono informato, mi sono preoccupato, ho fatto delle ricerche, mi hanno spiegato che è per un istinto di conservazione proprio della specie. Cioè un istinto di conservazione. Ti sei trovato questa giustificazione scientifica? No, non me la sono trovata io, ho chiesto in giro. Cioè con tua moglie tu hai detto, guarda, no, ma non come è... mai a me mi piace guardare pure quello? No, non ti preoccupare, è un istinto di conservazione. Cioè quando se tua moglie mai ti dovesse trovare a letto con un'altra... Se mi trovo a letto già è difficile, perché non dormo mai. Dice, tu gli dici, che te incazzi, sto a conservare la specie. Non ti preoccupare, è un istinto, non allora, è come dormire. È un tutorial sulla voce e oggi questo articolo noi ce lo stringiamo forte al petto, come tutte le lezioni che i nostri amici si sono alternati qui, storici, vocologi, etnomusicologi. Allora, quella è conservazione della specie. Sì, l'istinto... Quando tu entri dentro un bar, ti guardi intorno e scopri che in realtà fai lo scanner dei culi che ci stanno, quella non è involontaria, quella cosa, perché tu stai nel caso di scomparsa del genere umano, chi è quella con la quale io puoi conservare la specie? Io da questo è un modo per... Le donne non sono così, però. Ma le donne... Eppure dovrebbe essere, sono madri. Le donne arredano. Arredano la caverna, arredano. Cioè, guarda, mettono... lo sai che non è così. Io ho una moglie antropologa, ho avuto una discussione un giorno. Perché l'uomo, non ho capito perché ha perso questa forza. L'uomo è quello che porta da mangiare a casa, nella caverna, va a combattere con gli animali. Erano famiglie patriarcali. No, tesoro. Le famiglie erano matriarcali, comandavano le donne che gestivano la casa, il focolare, i figli, e dicevano al marito cosa doveva fare. È finita con una parolaccia, perché noi uomini possiamo così, razionalizziamo. Feci uno spettacolo tempo fa, si chiamava Le bugie con la C maiuscola. Nella ricerca del primo uomo che disse una bugia, ho trovato questa bellissima storia di Oscar Wilde, dove sostiene che la prima bugia detta proprio durante il genere umano è stata proprio detta da una donna durante un rapporto durante l'epoca delle caverne. Diceva ma come, mi hai portato sto mammut, ma che non lo sai che c'è sta un mammut con le zanne dorate, con le zampe di cristallo, vai, con le zampe insomma giganti, così. E quindi ha scatenato la caccia a chi portava il mammut più grande, assicurandosi che gli uomini andassero fuori più lungo possibile a cercare questo ipotetico mammut straordinario. scenario. Ma tu c'hai una prova tangibile di tutto questo? Questa è Oscar Wilde. Questo è Oscar Wilde. Detto Oscar, per cui sarà detto pensiero. Il pensiero è straordinario, come posso resistere a tutto, tranne alle tentazioni. Uno fa proprio le cose che servono a giustificare se stesso. Assolutamente. Beh, senti, è rimasto un minuto insieme. No. Lo so, amore mio, non è dipeso da me. Tu eri previsto un minuto. Più a lungo, in un minuto non si può fare niente. Dimmi se ti piace questa. Dammi un uomo minuto, dammi un uomo minuto, dammi... Come faceva la canzone? Dammi solo un minuto. Dammi solo un minuto, è un soffio di fiato, puoi dirmi... Non mi ricordo, come canzone era la canzone? Dimmela ancora, ma non so, la riunione non l'ho fatta io. Sì, non l'ho fatta io, sono loro che si riuniscono tutti insieme, devo dire un'idea fantastica, sarebbe bello averli... Tutti e cinque qua. Amico Dado, questa è una promessa, devi tornare perché insomma io, tu mai... Io se volete torno anche al prossimo blocco se non c'è l'ospite. C'è l'ospite, c'è Valeria Fabrizi che... In ascensore la è chiusa, è libera e con lei pure c'è tanto da raccontare, ma come con te insomma. Comunque è bellissimo questo posto. Peccato che la gente non lo vede ascoltando, non se lo può immaginare. Diventa televisione, capito? È come un libro con le figure, diventa un fumetto. Allora la radio va lasciata. Certo. No, perché uno immagina. No, tanto ci conoscono, sanno perfettamente che faccio. Senti, ma tu riesci? Faccio un test così. Veloce che dobbiamo andare in pubblicità. Fai la voce di qualunque cosa da uomo vestito, vai. Ciao tesoro, sono tornato a casa dal lavoro. Fai adesso la voce da uomo nudo. Ciao tesoro, sono qui, sono tornato dal lavoro. Ho fatto una doccia e sta in nudo. Qui. Faccio la doccia, hai messo l'elemento. L'elemento ce l'ho dovuto mettere. Grande Pirozzini. Gabriele Pellegrini in arte Dado. Ci sentiamo fra pochissimo con la grande Valeria Fabrizi, Radio 24, fra poco. Grazie. Voice Anatomy. Eccoci, stavamo salutandoci con Gabriele, con Dado e per accogliere la signora della televisione, la signora del teatro, la signora Valeria Fabrizi che ho avuto il piacere di conoscere da tanti anni ed è stata una delle persone che ha creduto immediatamente in questo signore ormai brizzolato e lei di signori ne ha tantissima esperienza di attori e soprattutto lei lo è ancora una grande attrice, non soltanto d'età. Che io non riesco a capire quanti anni ha Valeria Fabrizi, ma non lo voglio dire. No, non lo dire. No, siamo anche per... Poi c'è una voce, la confonderete con la mia durante questi blocchi, perché la signora c'ha una voce pazzesca. Se la chiami la mattina gli dicono, mi passa per favore sua sorella o sua moglie, eh? Allora Valeria, quando è cominciato tutto? In che senso, caro? No, frammetti. Quando è cominciato tutto la tua avventura nella televisione, nel cinema, nel teatro? Dove è nata? Dove è cominciata? Chi è stato l'artefice? Allora, io mi trovavo a Milano a trovare mia madre che aveva un centro medico. È venuto un signore a quanti anni avevi, Valeria? Meno di adesso. Ero piccolo, non ero ancora maggiorenne. Ecco, allora diamo, non diciamo l'anno, ma no. Alla fine lo dico perché me ne vanto anche. E allora sono praticamente venuto a ingessarsi un braccio e ho detto, chi è quella ragazzina là? E mia madre ha detto è mia figlia, e dice ma che cosa fa, studia eccetera eccetera, e allora mi ha detto c'è un ruolo, perché ha detto mia madre gli piacerebbe fare l'attrice, c'è un ruolo in un fotoromanzo. Nessuno della tua famiglia faceva questo mestiere? No, mia madre doveva lavorare con soldati in tempo di guerra. Aveva già, scelta, e poi già dopo... il cognome soldati in tempo di guerra, insomma, un binomio niente male. Insomma, fu un fotoromanzo. Fu un fotoromanzo, Fratelli d'Italia, io facevo Fiamma. Ma poi i fotoromanzi funzionavano da morire, visti più della televisione in prima serata. No, poi io li leggevo perché io lavoravo al catasto, sai. Io lavoravi ho fatto la parrucchiera, ho fatto la pantalonaia, io ho lavorato tantissimo, sono ricca di esperienze, così potrei non... Di dove sei intanto, d'origine? Io sono nata a Verona nella stessa via, nel stesso palazzo di Walter Chiari. Ecco, questo è un altro binomio che avremmo affrontato strada facendo, no? Non sapevo però nella stessa strada del grande Vaticano. Dicono che lui è meridionale, no? È nato a Verona. Sì, senti, questa cosa, beh, bello, te sei intonata immediatamente o lui si è intonato a te? Dipende, lui si è intonato a te. Tu c'eri di prima. Sei prima di tu, prima del verbo. C'era Valeria Fabrizi. E vicino a me c'è anche sua figlia, la signorina Giacobetti, che io adoro profondamente, grande professionista, grande PR. quando vi arrivano gli inviti sono sempre cose molto piacevoli. Grazie. E allora è qui che sta facendo compagnia sia a me che alla mamma, no, a me soprattutto, a te soprattutto, io ce l'accompagno, perché, io ce l'accompagno, che lei venne piccina a trovarti, a vederti con, sì, Tata, sì. Grazie a questo nacque proprio l'avventura più importante dell'Allegra Brigata. Io non voglio parlare di me in questa trasmissione, ma le strade, le sliding doors, sì, si è incrociata lì per il Teatro delle Muse, Allegra Brigata. Venne questa ragazzina con il papà, Tata Giacobetti, tuo marito, sì, il grande Tata Giacobetti, sì, del quartetto Cetra, mi sto riferendo a lui. Si divertirono molto a vedere questo gruppo di goliardici dedici al teatro. Stavano già a teatro, non lo sapevo. Sì, eravamo a teatro, e loro, Tata Giacobetti, parlò al Sistina, credo con Garinei, qualcosa è successo, perché c'era Fabio Camilli, Romano Camilli. Romano. Esatto, e che era il papà, il direttore artistico del Sistina, e lui lavorava con noi. E arrivò questa chiamata da Garinei, venne Bramieri a vederci con Panelli e ci portarono a Sistina a fare il Gino Bramieri Show. Grazie a voi, grazie. Io a non questi... c'ero, lo sai, no, venne a casa entusiasma e mi dicevano: ho visto dei ragazzi, che bello, che bello. Ho detto che bravi. Erano i nipotini preferiti, eravamo. Sì. E questo fu. Vabbè, non voglio parlare di me, ma dovevo parlare di te. Di e però me. Questa è una cosa che ci ha incrociato e ci ha unito per sempre, perché insomma io non posso che avere un rispetto totale di quello che è successo, ma poi l'amicizia ha fatto il resto, è la grande. Per cui da parrucchiera, da lavoratrice al catasto, lì a Verona. Sì, no. No, no, io poi da piccola, no, ma che sposata? Spostata. Ah, spostata. Non, sì, scusa. Non sente no, più tanto così troppo. Bene, però. C'ha pure la cuffia, detto, vabbè. Gli anni non li dimostra, ma ci sono. Ma sì. Poi come suora, ultimamente sei coperta nei capelli, ma sei sempre, sei sempre roscia. Sono roscia. Roscia fiammante. Comunque, no, dopo da lì siamo andati a Bologna, perché i miei nonni erano di Bologna, e da lì sono cresciuto, ho studiato quel poco che sono riuscita a studiare, e poi dopo praticamente lavoravo al catasto e leggevo i fotoromanzi, che quando io sono tornata e uscì il primo fotoromanzo dove c'ero anch'io, le ragazze, ed è una cosa che dico sempre con il cuore perché mi incomodo, erano sotto con i fiori. Ma dai. Sotto casa mia, io abitavo in una via antedivo di Bologna. Un grande successo, i personaggi dei fotoromanzi, sì, erano, guarda, il grande indimenticato Franco Gasbarri, per esempio, no, quelle persone che poi sono state restate al cinema e hanno avuto successo anche là. Erano gli attori, erano quelli vicini alle donne, certo, soprattutto alle avventure, all'amore. All'amore, era il fotoromanzo oggi, più che il cinema, era il fotoromanzo. Poi si è persa ovviamente, sì, questa cosa. Per cui dal fotoromanzo, il salto, quando c'è stato? Il fotoromanzo, il salto è stato Garinei Giovanini, sì, no, Tognazzi. No, io dovevo fare tutta con Garinei così. Giovanini, sì, dovevo fare Giovin Doppio Petto. Perché tu canti anche. Perché oltre io canto, sì, canto, ballo, ma non ho mai studiato, tutto di natura. È quella strada che c'era qualche cosa magica, che faceva ballare, cantare e recitare le persone che ci abitavano, sì. Però Walter non cantava. No, cantava e anche abbastanza bene. Sì, eh? Io in America ho avuto occasione di vedere un Walter Chiari completamente diverso da quello che conosciamo. Sì, che conosciamo qui in Italia, incredibile, anche perché c'erano due sostituti giù pronti dai lati, ma era bravissimo, un altro Walter, ti credo. Ma già era bravissimo. Sì, ma lì di più. Sì, lì cantava e ballava. Ma ci sono registrazioni di questo? Ma sto cercando. Forse. The Gay Life si chiama questa cosa. Ho dato al figlio una cosa, non so, cioè vediamo un po' se riesco non ad è avere. Male, sarebbe perché non male. Si è mai visto. Ma una sera rientrando a casa, quando stava da me, e quando stava da me, l'ho detto piano piano, dobbiamo arrivarci a questa storia, perché siete stati veramente amici, ma proprio fratello e sorella. Grande. Fino alla fine. Sì, fino alla fine. No, all'inizio non eravamo fratello e sorella. No, no. Ah, no, no. No, all'inizio ecco. C'era molto di più. Ecco che Valeria si apre come se fosse mezzanotte e un quarto, mezzanotte e mezza. Perché poi io ho una cosa che mi ha raccontato in tutta segretezza l'altra sera quando è venuto a teatro, ma la dirò, ti ho detto, sì, la dirò, devo dire, ma è un vanto clamoroso. Madonna. Ma perché, il tuo curriculum parla da solo, è inutile raccontare quello che hai fatto, perché qui dovrei stare un blocco a raccontare da dove parti e dove stai continuando ad andare, dai varietà televisive al teatro e quello che hai fatto. Però stavamo percorrendo intanto in ordine. Sì, Bologna. Bologna. Bologna, le ragazze con i fiori sotto casa. Sì. Così. E io quindi, no, praticamente poi sono stata bene ai Bileng in Italia con Sever Gugat e il compagno di mia madre era il loro amministratore. Per cui io ho fatto un passo breve, seguivo ai Bileng, nascondevo tutte le cose sue nel petto che gli facevano i regali, no? Uomini, corteggiatori. Ho una cicatrice, un ginocchio che mi sono beccata io da Xavier Cugat in un albergo mentre litigavano da e ho dato sto piatto. Addirittura. Sì, sì. E da lì sono diventata rossa, perché lei mi faceva uscire dalla parte dei camerini e lei usciva dalla parte centrale dei teatri. Quindi col foulard in testa, qualche bigodino, infatti mi chiamavano Abby Lane, italiana, Abby quando Lane. Ero piccola, sì. Beh, sei sempre stata bellissima, basta sì. Guardare. Sì, è bello che se lo dici, io guardo Giorgio ogni tanto, dico, sei sempre stata brava, certo. Ma è bello, ma dai, ma perché Dio? Perché ero una bella, veramente una bella ragazza. Beh, non era... sei una signora di un'età importante e non si vede, no. È un fascino niente male. Ecco perché dopo diciamo gli anni. Esatto, dopo li diciamo, non subito. Tanto devi tornare perché la tua storia è lunga. Ringraziando il cielo. E sono lunga. Ancora in vita, una delle esatto. poche. Esatto, c'hai anche da cominciare l'altra serie, se Dio vuole, come si intitola. Che Dio ci aiuti. Che Dio ci aiuti, ecco. Caso di dirlo. non a portarti via, dai. Ma insomma. Oh mio Dio. Ecco, per cui lì il teatro. Teatro con Garinei Giovanili, Giove in doppio petto, e 10 giorni dal debutto mi ammalai. Mi ammalai, presi la broncopolmonite, lui da Porto mi diceva tormento in passerella. Carlo da Porto, il papà. Papà, sì. Sai che io l'ho tenuto in braccio, il piccolino. Sì, il piccolino è venuto ospite, Massimo. Poi già Massimo, chi lui l'ha detto l'età, ah, no. Per cui s'ha detto l'età, lui fanno una proporzione. Tu hai tenuto in braccio Massimo da Porto. Massimo da Porto e pure Tognazzi, il piccolo, no, il grande. Ricchi, che gliel'ho detto, ma non era molto entusiasta. Che tu l'hai preso in braccio. Vabbè. Poi gli racconterò delle cose. Ho detto che ci vorrebbero altre 2 ore. Devi tornare, Valeria, devi tornare. Insomma, da lì ti sei ammalata. È continuata da... E quindi, siccome in platea al Teatro Lirico di Milano c'erano Tognazzi con Vianello, ecco. Lui mi aveva visto che si provava, prima uno provava. No, faceva lo spettacolo e nel pomeriggio subentrava un'altra compagnia. Allora tu sei troppo giovane per ricordare perché non sapevi. Io sì. E quindi niente, mi scritturò in ruolo minore, ma io accettai perché io volevo fare assolutamente teatro con c'era lui, Tognazzi, Vianello e Bramieri. Niente, con Dorian Gray, non ti dico a Parigi cosa abbiamo combinato. È bello perché si unisce l'arte al gossip nascosto. Che ti hanno combinato? Sì, ero innamorata di te tutte no, e tre? No, assolutamente. Tognazzi si mi corteggiava ed era geloso perché c'era Walter Chiari che già mi aveva addocchiata, poi parlavo perché ovviamente essendo amici di famiglia, perché i miei erano amici dei suoi genitori. C'erano ancora i genitori di loro, di queste persone, e per cui tu hai accettato, hai accettato la parte, ma non... La corte, sì, anche la corte. Ero molto civetta, devo dire. Mi piace che... Devi essere più sincera, però. Non ci andavo. Sei sincerissima, e questo lo dico. No, 2 o 3 baci così, ma niente di più, non ci sono stata a letto. Va bene, no. Questo ce lo diciamo fra di noi. Qui adesso si può dire, non è il Vaticano. Quello. No, è Radio 24, è Radio Vaticano. Appunto, sto scherzando. No, ma si può dire anche... che dico qualcosa anch'io di spiritoso. Ma forse. Che scherzi? Queste sono le cose che interessano, perché come attrice ti conosco, magari sono anche affascinati dal racconto della storia, dell'evoluzione di una storia. Ma è bello che all'interno della storia c'è la vita, c'è la carne, c'è la realtà, c'è la quotidianità, che è quella che poi alle persone interessa. Insomma, sì, ti apprezzano, ti hanno applaudito, però dice che c'è la donna dietro l'attrice, qual è? E non è soltanto mera curiosità morbosa, ma è soltanto quando lavoro ci sono le ragazze, per esempio, qui, che Dio ci aiuti, sono tante, ogni tanto ci mettiamo nel camerino o nella roulotte e mi chiedono delle cose, mi chiedono raccontaci un po', e quindi sono un po' un cantastorie del mio passato. Ma sì, ma è poi un passato che riguarda tutti, perché è un passato intenso. Io adesso se una persona giovane adesso raccontasse del suo passato, è un passato leggero, è un passato che manca quell'intensità, quel fascino di quegli attori che tu hai conosciuto hai condiviso. Lo dirò nell'ultimo blocco. La condivisione importante, ma quella è divertente, dai, non è così male. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, se non sbaglio, vero caro Valerio? Valerio come te, Valeria Fabrizi. Ciao Valerio. Buona, sta ferma, ma guarda che macello, mamma. A tra poco, Voice Anatomy con Valeria Fabrizi. Voice Voice Anatomy. Bentornati signori Voice Anatomy, qui il vostro Pinuccio Insegno e la nostra Valeria Fabrizi, che sta cominciando a raccontare una storia bellissima della sua vita, che poi è una storia anche di questa nazione e di tanti, tanti attori, tante attrici, tante bellissime cose molto profonde. I nostri ascoltatori ti adorano, che donna simpatica, carismatica, vorrei restare ad ascoltare la sua storia per giorni e giorni, e ce vogliono giorni e giorni perché ci sono tante cose. Noi stiamo cercando di percorrere un po' in ordine, scavando in quei momenti magari delle cose, ma se possiamo anche fermarci solo al primo racconto staremo qui già un'ora, ma noi la saltiamo perché ci torneremo sopra. Siamo arrivati al teatro musicale, dopo i fotoromanzi, questa avventura con Tognazzi e con Raimondo Vianello e Bramieri, da lì insomma una crescita esponenziale. Sì, poi da lì sono passata con Garinelli e Giovannini sempre, e finalmente ho fatto Carlo Non Farlo con D'Apporto. Con D'Apporto lì è cominciato la storia. Io con lei parlo, mi viene in mente storie d'amore. Storia. Eri fidanzata d'amore in quel periodo? No. Lì non ero fidanzata. Libera. Filavo un po' di qua, un po' di là. Ma c'è tua figlia, dai, non dico i nostri ascoltatori. Ma era una ragazza, una bella figliola, piena di vitalità, simpatica, bolognese. E quindi è detto tutto. No, non è di veronese. No, io bolognese praticamente. Io sono nata a Verona, ma il veneto non lo so parlare. Io sono andata subito a Bologna. Dopo pochi anni, sì, aveva 3-4 anni, io sono andata a Bologna, sono cresciuta lì. Per cui da Porto al Sistina, Tourneo ovviamente, cinema è arrivato. Io leggo però, prima di farti questa domanda, che nel 57 sei arrivata quarta a Miss Universo, è vero? Sì, è vero. Cioè tu hai partecipato a Miss Universo? Sono andata a Miss Universo. E siamo arrivati quarti? Quarta, sì. Che non è male, perché, la cosa, la prima volta che un italiano arriva a sti livelli. Ma perché non parlando l'inglese, non capendo un tubo di quello che succedeva intorno a me, facevo dei casini, ma così per pura bontà. Cioè, come ci sei arrivata? A parte eri bella, sicuramente qualcuno ti ha proposto. Ma perché Radaelli allora c'era, che faceva Miss Italia? No? Radaelli. Ah, Radaelli, grande Ezio Radaelli, come Ezio no? Ezio Radaelli. E fecero una riunione con i giornalisti o cosa, e scelsero, perché io non avevo sfilato in costume, ma siccome venivo da Garinè e Giovannini, evidentemente avevano visto il mio corpo come ragazza, e quindi mi hanno selezionata insieme a tante altre e hanno scelto me. E sono andata partita a fare Miss Universo? Sei andata a farlo dove? In così all'improvviso in America, a Los Angeles. Ma te. Ho conosciuto anche Elvis Presley lì. Hai conosciuto Elvis sì, Presley? Caro. Io di queste cose voglio parlare, cioè, ma stai muovendo, no, io lì sono esperto di comunicazione non verbale. No, hai fatto conosciuto Elvis Presley, alzata la spalletta. Mi do arie, sì, mi do arie. Ah, erano solamente arie, sì. Non è che abbiamo conosciuto Elvis Presley. L'ho conosciuto. E lui ha cantato lì. In occasione di Miss Universo. Era venuto a fare. No, è venuto, ha cantato all'Hilton una canzone. E c'era il marito di Liz Taylor. E Richard Burton si chiamava, ti ricordi? No, non era Richard Burton, no? Ma ancora prima? Sì. Ma quanti anni c'hai, Valè? Tanti. Prima di Richard Burton, io pensavo che Liz Taylor cominciasse con Richard Burton, e invece no, prima di Burton. Prima. Come era Elvis Presley? Come sono questi grandi? Uno ha un'immagine gigantesca. Il fatto di. Mi ricordo che alcune ragazze si strappavano i capelli, si tiravano i capelli. Sì. E urlavano, poi non era neanche l'ambiente adatto, poi perché non era teatro, Hilton. Era in questo Hilton, stavano tutti lì intorno. Io avevo un'amica carissima che era Anna Maria Pierangeli. Anna Maria Pierangeli si presentò, io non la conoscevo, l'ho conosciuta là, e lei mi prestò un vestito perché mi hanno mandato in America senza i vestiti perché dovevamo fare le sfilate. Ah. E quindi uno mi fu dato da lei. E poi quando lei è tornata in Italia ci siamo ritrovate, ci siamo frequentate. Grande donna anche sì. Lei, eh? Sì. Ma qui forse dico un'intensità vera di storia, per cui Elvis Presley sfiorato soltanto. Sfiorato, è venuto lì a cantare, sì, abbiamo fatto le foto che non riesco a trovare. Adesso ho chiesto a una Miss Francia se esistono da qualche parte. Beh, la foto con Elvis Presley non è male. No, me la vendo. No, come te la vendi? Faccio una fotocopia e poi la vendo l'originale. No, Valerio, non stai passando un periodo così duro, dai. Ma come te. Che pulciara che sei, come si dice a Roma. Ma smetti, la foto con Elvis Presley non la venderai mai. Come non venderai mai le tue lettere meravigliose che hai certo. Nel cassetto con delle persone straordinarie che ti hanno amato, che tu hai amato e credo che tu ancora ami. Ma anche noi li amiamo. Amiamo quasi tutti le stesse persone. Vero. E non parliamo di sessualità ovviamente, parliamo proprio dell'uomo degli uomini che tu hai conosciuto, con i quali hai condiviso, e si dice sempre dietro un grande uomo c'è una grande donna, mai come adesso la cosa è vera. È vera. Perché assolutamente, tu sicuramente sei tuttora una botta d'energia che non finisce mai. Tuttora, sì. Dovresti essere vietata dalla polizia, perché a te quando... Quando succederà quel giorno, credo che Giorgia noi la cremeremo e la venderemo al grammo, mamma, cioè non sarà messa così ogni di tanto parte. Ogni tanto lei mi frena, perché poi sono fumina. Sì, perché no? Giorgia è educata, è carina, tu non è che non sei educata, ma Giorgia sembra lei tua madre. Sì, sì. Ogni tanto ti guarda, ma mamma, questo no. È vero. E Giorgia io parto in qua quando ci sono delle ingiustizie, adesso vado, faccio, mi leggo il cavallo, tu hai capito sì, dove. Sì, quale cavallo. Quale quello cavallo. C'è, quello c'è. E quindi no, guarda mamma, io parto, vado via, mi vedi più. Quindi ci cambio cognome. Ma lei già è Fabrizi, per cui quello è il tuo cognome vero, Valeria. Sì, chiami Valeria, no, Valeria Fabrizi con due Z. Ah, Fabrizi con due Z. E Aldo Fabrizi, Fabrizi era una. Sì, era una. E lui mi ha detto che è stato, che si era informato il perché. Ma c'è un po' male. Esatto, e disse che furono degli errori all'anagrafe quando scrivevano chi 2B e cosa, quindi è una Z e una B. E allora mi tolsi una Z per fare il nome d'arte. Sto sforzo. Sta fatica. Hai tolto il nome d'arte così, perché poi dovresti essere diventata a un certo punto Valeria Fabrizi in Giacobetti. In Giacobetti, sì, ma nessuno sa. Sì. Pochi sanno Valeria Fabrizi in Giacobetti. Perché mai hai detto questa cosa? Perché è da tuo marito, no? Ah, in questo senso, ma no, come Valeria sta, Fabrizi mamma? In Giacobetti. Ogni tanto mi perde i colpi. Pensa se l'hai visto dopo mezzanotte, che succede? No, o si libera totalmente. No, no, lì. Sì, sì. È lì dopo tu sei dopo mezzanotte. Sì. Sei da dopo mezzanotte. Chiederò a Radio 24 se mi dà uno spin-off della trasmissione. Dopo. Questa è anche una trasmissione che potrei, visto che parla di voce. E le voci più belle che accompagnano sono quelle nella notte, diventano ancora più evocative, diventano più magiche, magari si può entrare più in introspezione all'interno di che la domenica pomeriggio, magari più familiare, ma sai, il nostro pubblico è molto, ma molto attento a qualsiasi... A proposito di voci, sì? Walter Chiari mi fece fare, ti ricordi che tempo fa esisteva la segreteria telefonica? Certo, è vero, esiste tuttora, magari ma la usano meno nei telefonini. Sì. Allora lui mi faceva fare delle registrazioni per gli amici, dove dicevo, questa è la segreteria telefonica del 35 34 11 27, non siamo in casa, ma se lo desiderate potete lasciare un vostro messaggio alla fine di questo annuncio e al nostro rientro sarete richiamati. Ecco, a proposito di voce, no? Allora, senti, hai capito, sì, sua dente lui mi ha fatto sensuale. Fare questa, me la mette solo la notte. Certo. È la notte che serve questa voce. Esatto, il giorno serve. Adesso come mai capito? Dai, la notte ti accompagna, uno di notte fa, bene, benvenuti ai microfoni di Radio 24, è l'una e un quarto di notte, quello diciamo il Samad, buono, invece benvenuti signori. È come una volta in uno sketch di Walter Chiari, come usavi il telefono, se tu dicevi, chiamavi uno a Roma, su Roma facevi col telefono di casa, quello c'era, sì. Pronto? Senti, c'è Marco? No, sta a Firenze, va bene, lo chiamo. Pronto? Marco? Mi senti? A Firenze? No, Marco non c'è a Firenze, sta adesso, è andato a Milano. Ah, lo chiamo. Pronto? Mario? E diventava così fino a diventare a Los Angeles, che Walter si senza sgarava voce. La voce. Perché era automatico. Quando parlavi con una persona per telefono, più alla lontana, più tu strillavi al telefono. Sì, a parte che adesso strillano sempre, non so perché. Ma come mai? Non lo so. Ma perché tu, qualche tuo collega, non dici che basta parlare piano, che si capisce anche meglio? Qui era il mio collega, qual era? Ah. Nei colleghi, da amici, quelli in televisione, no? Urlano tutti. E perché vogliono attirare troppa attenzione, magari non vogliono dare il tempo alla gente di spingere il telecomando. Ma quando facevi la trasmissione so. Ultimamente, eri così, con la voce tua normale. Invece questi urlano, ma che si urlano? No, adesso gli urlatori. Sono fastidiosi, sono. Adesso gli strilliamo, guarda, mi fa smettere di lavorare tua madre, io ho ancora avanti almeno 20 anni. Capito? Lei fra 20 anni c'ha 143 anni, io no, io dovrei... Sai che me ne stai dando troppi? È vero, 143 sono troppi, certo, sono 127 fra 20 anni. Dai. Molti meno. Ma molti meno. Ma non troppo molti meno. No, apposta. Muoviti, mi sono dimenticato dove siamo andati, da Miss Universo siamo arrivati al Sistina e poi dopo il Sistina... Siamo il cinema quando è arrivato? Il cinema è arrivato... Beh, se ti dico, dunque il cinema è arrivato perché mi hanno visto in Carlo non farlo, l'adorabile Giulio. L'adorabile Giulio. L'adorabile Giulio con c'era Della Scala. Esatto. Grande Della Scala, Della, l'altra persona mia con grande cui amica. Avrei voluto parlare. Io avevo ancora due care amiche, Mondaini e Delia. Bene. Sì, e sì. Anche Lauretta Masiero, devo dire. Sì, però io con Delia Scala mi manca un po'. È una donna che avrei voluto conoscere, me l'ho sfiorata nel GB Show un paio di volte. È affascinante, so, quelle donne come te che cantano, ballano, recitano, hanno una storia, hanno avuto una vita. Sì. Non serve, io ballo, non ho mai studiato ballo, sai quante volte mi sono proposta io lì ballando con le stelle? Ma la prima volta che sono andata, prima edizione, lei mi ha detto che bisognava trovare un coreografo adatto. Ora tu dimmi, chi è il coreografo della cosa qua? No, sono da trasmissione. Chi sono questi coreografi? Perché no, ci vuole un coreografo? Non ci sono. I coreografi veri come non ci sono più, i ballerini in televisione dice il balletto non funziona, non è vero, il balletto bello funziona, è come il varietà è morto, non è vero, lo dicono da sempre che il varietà è morto, pure quando faceva Walter Chiari Panelli sul giornale dice il varietà non ha più nulla da dire, non è vero, è il varietà giusto, funziona, il Sanremo portato a casa bene, funziona, tutte le cose belle fatte bene con degli autori funzionano, degli autori, e gli autori che cominciano a scarseggiare un magari po'. Magari ci sono, ma non li vogliono. Sì, ecco, sono le strade strane, ma speriamo che un po' il segreto del successo e il futuro di questo paese risieda in una parola solo, che è meritocrazia. Se meriti di stare al posto giusto, è giusto devi che avere sedere di arrivarci al posto giusto. Lo so, ma qui si aprirebbero cose. Chiamerei il mio amico Cruciani con la zanzara, bello arrabbiato, che spinge e mena. Ci vorrebbe anche quello il discorso. Però noi adesso lo percorriamo in un'altra maniera, più romantico, più romantico. Per cui il cinema è arrivato. Allora, quando è arrivato quando io mi prese bene un regista che si chiamava Luigi Comencini. Sì, un ragazzetto. Mi propose una cosa, perché io avevo perso già con Dino Risi, persi e Poveri ma belli. Che fece che mio zio. Ah, è vero che era tuo zio. Sì, grande Maurizio Arena. Era ma sai zio. Che ho trovato una foto con lui, anzi due. Teleporto. Sì, c'è ancora Rossana Di Lorenzo, che è mia zia, che l'altra settimana è intervenuta per telefono, che è la prima Erminia dei film di Sordi, ancora pimpante come te. Zia, è meraviglioso, dissi l'altro giorno, se ne uscì una volta per dire, raccontare com'è una persona inutile, dissi una frase straordinaria, quella buttarla in peccato, ma tenerlo che ce fai? Credo che sia bellissimo. Invece di una parolaccia gli dici questo, l'hai ammazzato per sempre. E allora cinema Comencini. Comencini, e non potevi fare, quindi quello dirige, però feci un film con Claudio Villa. Il primo film con Claudio Villa. Il Reuccio, che si chiamava, non mi ricordo, Un canto nel deserto. Prima poi i Musicarelli, il cinema con questi cantanti, eccetera, era bello ricco. Ma il cinema sì, lo faceva, era veramente così, ricco prima. Si facevano 150 film western all'anno, per cui c'era e poi lavoro. Senza volgarità, c'erano i film, insomma, scritti, non dico così, a livelli intellettuali, però erano dei film puliti, sani. Nel suo genere un film di serie A, non era un B-movie, era un film di serie A. Quindi io feci questo film con Claudio Villa e da lì partì e cominciai a fare, riprese a fare teatro. E tanta televisione? No, mica tanta, insomma, ma insomma, abbastanza. Debuttai anche con Gasman, feci Il Mattatore. Mamma, fu una grande emozione perché era la prima volta che andavamo in diretta. Beh, una cosa del genere, poi facevamo un ascolto piccolo quel periodo, facevano quei 20-30 milioni di ascoltatori, no? Mappa, e quello era l'ascolto. Ma non perché non c'era altro, perché erano perché cose c'erano. Che comunque erano cose. Come dico nel mio spettacolo, il televisore non era un elettrodomestico, era un momento di grande aggregazione. Ed era un momento per stare con tutta la famiglia e c'erano cose scritte da persone e recitate da persone con l'Empals, con i veri contributi da attori. Dobbiamo salutarci qui ancora per il prossimo blocco. Fra pochissimo torniamo e chiudiamo questa piccola avventura di domenica pomeriggio con Valeria. Non lo so, ma sono passati 35 minuti. Devi tornare, te l'ho già detto. Siamo arrivati solo all'inizio, cioè i 20 anni. Ne mancano 70. E i tuoi ascoltatori dovrebbero segnare dove siamo rimasti. No, me lo ricordo. Sono bravi, questi se lo ricordano. So, mica so come te. A tra pochissimo, Voice Anatomy. Sanatomi. Eccoci di nuovo insieme per l'ultimo blocco con Valeria Fabrizio, poi io scapperò di corsa a teatro. Raccontavo a Giorgia che c'è il podcast disponibile su iTunes, ovviamente per risentire o scaricare la trasmissione. Devo dire che è sempre molto seguita, perché è sempre abbastanza interessante, insomma, un percorso diverso dal solito, quello della voce, e la voce che è al mio fianco è quella di Valeria Fabrizio. Allora, voglio farti una domanda. Quali sono le persone con cui avresti voluto lavorare, ma non ci hai lavorato invece, perché hai lavorato con tutti? Dici del teatro? Del teatro, del cinema, della televisione. Non saprei. No, io non ho fatto una selezione. Io accetto, non ho preferenze. Dove mi capita di lavorare, fare delle cose gradevoli, così non... Persone insopportabili non abbiamo incontrato. No. Ce n'era, magari uno poteva avere un carattere forte, però almeno aveva... Sì, forse no, qualcosa da dire. Non ho avuto ferite di questo genere. No, tu no, no, eri bella. Ero be- sì, vabbè, circondata, non sei bella. No, bella, intelligente. Sai che sono molto, molto, molto affettuosa. Io sono una che abbraccia, bacia, sì, vuol bene. Poi già l'ambiente è così, io, però. Sì. Che poi non è che lo giudicano bene tutto questo, perché dicono a questo. No, però essendo un ambiente che si vive di emozioni, è molto carnale. Ma una volta allora... era così, si accettavano, si condividevano, eccetera. Ma adesso. Insomma, sì. Ti guardano con sospetto, ma che vuole questa questa signora con sto bastone che ha parcheggiato? No, senti, parcheggiata. Qual è la persona che ha caratterizzato di più la tua vita? E qual è stato lo sliding doors, cioè la persona che ti ha fatto saltare, proprio che ti ha aiutato, ma non ti ha aiutato professionalmente, no, che ti ha dato uno sprint psicologico, no, no, che ti ha dato la forza di dire ok, posso farlo, posso andare avanti. Devo dire Walter Chiari, perché è lui che mi ha praticamente trascinata e convinta mamma a lasciarmi andare su quella strada così della... E questo grande amore si è trasformato poi in una grandissima amicizia. Sì, una grande, stato, grande Walter amicizia. Walter Chiari l'ha sempre conosciuto, poi ha incontrato... Tata, che in teatro, quando abbiamo fatto insieme... Col Quartetto Cetra? Sì, col Quartetto Cetra. Non lo potevo vedere, mi era antipatico, perché mi voleva dire no, si va a letto subito appena finito, me lo fa da papà. Ho detto no, mi dispiace. Ma era più grande di te, no? Non di 15 anni, quasi 16. Pensavo meno, penso. Pensavo che portava bene anche lui. Sì, tata, sì. E pensavo fosse andato via troppo presto, perché fosse stato il primo a salutarci del Quartetto Cetra. Non aveva ancora 65 anni, e facevamo le nozze d'argento. Avremmo fatto. Eravamo già preparato tutto, invece è andata così. Ti ha salutato così. Mi ha salutato adesso così. Sono tutti e quattro. E mi ha lasciato lei. Tutti e quattro sono adesso sono andati. Tutti e quattro e sono quattro angeli meravigliosi. Sì. Mi piace pensarli bello così. Quattro angeli. Ma sì, con quelle voci soavi. Non possono che essere i cantori del Signore. Guarda, secondo me cioè, l'ha presi subito. Dice, sbrighiamoci qui. Perché, ma dobbiamo essere un po' romantici. L'altra sera... Molto Frank Capra questo però. L'altra sera al festival hanno cantato una loro canzone, no? Vabbè. Chi l'ha cantata? Che io stavo in scena, per cui non mi ricordo. Giorgia, te lo ricordi? Aspetta, i Dear Jack. Sì. E hanno cantato Un bacio a mezzanotte. Non ti fidare di un bacio a mezzanotte. Sì. Vabbè, bello. Per cui, Walter, grande amore. Poi un arrivederci, perché è stato arrivederci. Senza ma mai perdervi. Mai perdervi. Sempre questo rapporto che c'è stato di amicizia, questo filo sotterraneo, mai spezzato, anche quando le nostre vie se ne sono prese altre strade, insomma. Per cui c'era un triangolo meraviglioso. Triangolo d'amore. D'amore tutto. E di amicizia. Poi tra loro erano amici, anche Tata. Questo. Molto prima, in tempo di guerra, erano amici. Credo che questo sia il triangolo migliore. Sì, e Tata non era affatto geloso del mio passato con Walter. Ma molto ovviamente perché breve. Era cosciente, forte della propria personalità e forte del fatto del tuo amore nei suoi confronti. E fu proprio lui che lo fece venire a casa nostra, e qua è rimasto quasi 5 anni, fino a quando è morto. Ah, per cui gli ultimi anni li avete vissuti insieme. Lui sì, Walter più è io. Morto prima, dopo Tata. Era lì quando è stato male, dormiva in un'altra stanza. E insomma, io ti racconterò cose molto belle di Walter, del nostro rapporto, che poi hanno sporcato una penna nera, messo delle cose sbagliate, insomma, non si doveva fare, dire delle cose... No, ma infatti, ecco, io voglio che tu torni, perché dobbiamo raccontare, magari leggere anche qualcosa che possa far piacere alle persone, per conoscere, sì. È bello, la voce sì, ma la voce della persona, della persona dietro l'attrice, la persona dell'uomo dietro l'attore... Che sono cose interessanti, non soltanto quelle pruriginose che possono essere divertenti, per carità. Però ecco, raccontare l'uomo o la donna, l'uomo in senso generale, certo. È bello perché tu hai dei ricordi bellissimi, non soltanto farsi di parole del tuo racconto, ma anche scritti. E prima mi stai facendo vedere una lettera bellissima che ovviamente non posso leggere adesso, non potrò magari leggere mai. Ti farò leggere le altre cose più divertenti, così. Però è un suo testamento quasi, perché poi è stato trovato. Ecco perché una storia del genere può essere interpretata in maniera come vogliono loro, insomma. Certo. Un triangolo d'amore era stata, perché poi si razionalizza tutto in questo mero gossip stupidissimo, invece può esistere una grande amicizia fra un uomo e una donna dopo che c'è stato un grande amore, insomma. Certo. Non è che avete parlato di favole la sera, insomma, siete stati insieme e poi il grande amore con Tata e poi questo amore nei confronti di un uomo che ti ha salutato dolcemente, piano piano, anche lui giovane, non era grandissimo Walter? È morto dopo 2 anni, dunque Tata nell'88, lui nel 91, ed è stato... Quanti ne aveva Walter quando... Walter era del 24, 8 marzo 24, e Tata era del 22. Beh, giovani tutti e due, sì. troppo presto. Uno come Walter, però sono però piccole fonti di energia che credo non possano morire, no. Si sentono nell'aria, insomma. Io sì, ho l'età quella che ha potuto godere di tutto questo, ma io lo vedo anche nei ragazzi che stanno venendo a teatro e vedono quei momenti di Walter Chiari o del Quartetto eccetera, che cominciano poi a informarsi, dico fammi capire più, certo. E questo deve succedere, questo è un paese che non sa ricordare, e invece non, ecco, non voglio vedere solo teche la sera d'estate in cui vedo, perché devi far innamorare i ragazzi del passato, raccontargli da dove veniamo, perché siamo figli di quello, e capire dove stiamo andando grazie a quello, certo. Non dimenticando che sia la politica, uomini della politica, che sia dello spettacolo, che sia della scienza, invece dimenticano, e non è giusto, perché è bello, perché scoprirebbero grandi personalità, grandi idee per poter continuare su quella strada. È come vedere un film muto dove non capisci cosa ci sia, sì, la parola. Non pensa che sia stato romantico, gli occhi hanno, oddio, sei così, no, non è quello, è che c'era un'intensità non indifferente. C'era una grande preparazione alle spalle, senza nulla togliere ai reality, ai talent, che insomma corre un po' troppo, sì, qualcosa vorrei togliere, però assolutamente, ma non adesso voglio aprire. Adesso il successo è facile averlo perché c'è il mezzo televisivo, noi ce lo siamo sudato, perlomeno io e ma bisogna, io auguro sempre ragazzi che cominciano un grande insuccesso, perché poi devi saperlo gestire un successo, se arriva subito quello, come se ti regalano una Mercedes e dopo te devi fare 500, non ce la fai. Invece comincia una bella 500 scarcagnata, quando arrivi lassù, se dovesse succedere qualcosa, sai da dove ricominciare, perché ce l'hai già avuta, te porrode un po', ma anche puoi ricominciare da lì. Il talento va coltivato, non basta averlo, no? E assolutamente, quindi adesso si sentono tutti appena appaiono in televisione, lasciamo perdere, se non mi scaldo. No, non si scalda, e poi Giorgia si arrabbia. Però vedi, il tempo è finito, ma... 45 minuti volano così, ma devi tornare, non dico che stava a chiamare Giorgia, stava a chiamare Valeria, perché dobbiamo parlare di tutto. È stata una bella chiacchiera, anche perché io devo raccontare quella cosa che in segretezza mi hai detto all'orecchio l'altra notte. Mia, cosa fa? Ero ubriaca. No, eri allegra, ma non eri ubriaca. Eri allegra, ma come lo sei sempre, per cui sei sempre ubriaca, non credo. Anche adesso sei ubriaca, non è vero. Ovviamente qui continuano ad arrivare dei messaggi di grande affetto. Grazie. E non poteva che essere così. E allora, signori, Voice Anatomy anche questa domenica finisce qui. Io ringrazio tutti gli ospiti che sono venuti, ma soprattutto abbraccio la mia grande amica, ed è stato lo sliding doors della mia vita, mi ha portato anche dei dolci ma c'è cascata sopra. Vabbè, è una cosa impossibile, lei è così, ha portato dei dolci e c'è caduta sopra, non è possibile. Giorgia, non te stai dietro a mamma, ti prego, ti danno dei soldi per l'accompagno? Neanche, vabbè. E allora, ciao Giorgia Giacobetti, mia grande amica, e ciao Valeria Fabrizi, ma la promessa è quella che devi tornare. Abbiamo raccontato i primi 6 anni della tua vita artistica e ci siamo fermati lì. Grazie Valerio dall'altra parte del vetro, grazie Gaia, grazie Alessia Navarro come capo progetto di questo bellissimo progetto, grazie a Damiano Fabiani, grazie davvero anche a voi che ogni domenica ci seguite con questo grande affetto. Salutali anche tu, la tua bella voce. Grazie a te, Pino, e grazie a tutti i tuoi ascoltatori. Facci la segreteria telefonica. Buon San Valentino. È vero. Amore. Da buona c'è mia moglie, ci può sentire da un momento all'altro. Non possiamo continuare a vederci così. No. No. Radio 24, ci sentiamo, ci vediamo, no, ci sentiamo domenica prossima. Grazie. Ciao.